passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Invece siamo qui, non siamo lontani, caro Parenzo, siamo presenti sempre, 18:30, tu questa sera dal Granducato di Toscana. È così, caro, è un piacere sentirla, è una delle poche ragioni mi danno ancora. Ma sei triste, ti si sente lontano come al solito, metti la voce più vicino, siamo alla radio, bisogna sentire bene. Una delle poche ragioni troppo, che mi dà ancora ebbrezza. Sei triste, cosa è successo? Sei triste, no, che è successo? Come dice il suo amico, il tuo amico Eros Ramazzotti, sono cose della vita. Sono cose della vita. Benissimo, abbiamo un Parenzo. Abbiamo stasera, con cosa abbiamo all'attacco stasera? Con il menù, qual è il menù? Chef. La chiamerò chef d'ora in poi, va bene? Davanti a un Parenzo molto triste ci vuole solo, ci vorrebbe solo Borghezio, però non ce l'ho a disposizione qui. Mettiamolo un po', così ti risollevi un attimo, così ti riprendi subito, un attimo, velocemente, pochi secondi. Grazie. L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità, civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Ce la voglio rossa Già ti sei risollevato, Già sto a pallettoni, carissimo. Cioè, non sei come quel deputato della Lega che dice che per quando è giù un po' depresso mette le cuffiette e si sente i discorsi di Bossi. Non sei a quel livello, però anche tu vai con l'iPad, ti ho visto più volte mettere selezionare Borghezio sul motore di ricerca e poi vai lì e ti ascolti i discorsi e ridi, diventi improvvisamente più simpatico, più socievole. Il mio preferito discorso è quello quando Borghezio attacca dicendo certi imam. Quello è il mio preferito, certi imam. Vabbè, insomma, cari ascoltatori, dovete sapere che il signor Parenzo si sente a proprio agio, si mette di buon umore a ascoltando ogni giorno i discorsi di Borghezio. Va bene. Ogni giorno, andiamo. Diciamo la verità, spesso, ogni giorno. Va bene, vogliamo parlare del titolo del giornale di oggi? Altro che eroe, solo un cretinetti, un leader notabile in fin di vita, ha fatto il bullo ed è caduto da un traliccio, ma il movimento accusa la polizia, solo un cretinetti, ne parleremo più avanti, però voglio prima farvi riascoltare. C'è poco da parlare di un titolo, ma è un titolo splendido. Voglio prima parlare e farvi riascoltare il signor Perino, Alberto Perino. Uno che defeca lì in pubblico e dicono ecco la sinistra, faranno. È un giornale. Questo è un errore. È un giornale. Fai silenzio un attimo, fai silenzio un attimo. È il giornale, dai. Su. Senti quello che ci ha detto, se ancora lo ricordi, uno dei leader dei Notav, il democratico Perino, che se l'è presa con la polizia, ma se l'è presa anche con noi due, naturalmente noi non contiamo in nulla. Con te, in particolare. Con me? Con tutti e due, ma che dici? No, con tutti e due. Senti. E si vede benissimo che la polizia gli è corsa dietro su per il palo e lui è caduto. Però lui ha anche detto alla polizia: state giù perché io se no continuo a salire. Sì, l'ha fatto cadere la polizia perché gli è corsa dietro. Lui ha detto non continuate a salire perché se no io continuo a salire, e lui è rimasto fulminato. Che diritto deve avere di fermare una persona? Se io sono su un palo, che cosa pensi che scappi, che voli via? Il signor Perino, le teorie di Perino, le cose da pazzi proprio. Sentiamo questo però, l'attacco frontale ai conduttori della Zanzara, una cosa vergognosa. Sentiamo. È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde. Io la voglio mettere come sigla, ecco. Caro Perino, la utilizzerò come sigla, grazie infinitamente, grazie. Io un po' lo scuso per via del clima di ieri, della giornata di ieri. Ma tu scusi sempre quelli che sono più o meno dalla parte tua, come al solito, no, insomma. Come al solito. C'è una persona che ancora lotta tra la vita ma e la morte. Ma stai zitto, ma che me ne frega, io sto parlando di Perino, non di quel povero ragazzo. Sì, ma io capisco, Perino ha detto una stronzata, bisogna dire che stai zitto un attimo, Adinolfi, il mitico Adinolfi, il titolo di Sallusti è criminale butta benzina sul fuoco. Adinolfi, lo sai come funziona la stampa, no? Ma di che ti stupisce? Adino, via. In questo momento possono riproporsi schemi già visti, e lo schema già visto è uno schema di una stampa che getta benzina, e perché quel titolo è benzina sul fuoco dell'antagonismo, ed è ancora più grave perché è consapevole benzina, non è un incidente, è voluto. Vogliono che noi oggi stiamo qui a discutere di questo. Adesso la colpa è del giornale, secondo Adinolfi. Ma non scherziamo, su, non diciamo stupidaggini, per favore. Però, è molto intelligente Adinolfi, ma non si può dire che butta benzina sul fuoco. Solo un cretinetti, questo è il titolo. È un giornale, fa una provocazione. Ma è una roba basta. Di cattivo gusto. Ma che cattivo gusto? Ma cosa c'entra? È caduto, un attimo, che ho un ospite collegato. Le discussioni a dopo. Magari lo coinvolgiamo anche su questo. Prima però. Un'altra stupidaggine, quella di Maroni, che dice la presidenza della RAI tocca a noi, poi dice la RAI andrebbe privatizzata, però dice il nuovo CDA, il presidente all'opposizione, cioè a noi. Spero che sia solo una provocazione da parte dell'ottimo Maroni, via. Certo è che se rimarrà la legge attuale e ci sarà il nuovo consiglio d'amministrazione della RAI, che dice che per l'equilibrio tra maggioranza e opposizione il presidente va all'opposizione, beh, ricordo che la Lega è un partito, è l'unico partito di opposizione. Bene, intanto c'è un ascoltatore di Michele da Mantova che continuamente mi chiede ormai da 10 giorni, chiamate Buonanno, mitico deputato della Lega, quello del Grana Padano, vi prego, ne ho bisogno. Vabbè, vi accontenterò fra pochi giorni, addirittura se è una questione di vita o di morte. È con noi, ricordandovi l'800240024, da Roma il mitologico direttore del Secolo d'Italia, Marcello De Angelis, senatore del PDL, buonasera. Buonasera. Come sta? Oh. La sento lontano con questa... E che devo fare? Io sto vicino al telefono. Ottimo. Ottimo, eccoci qua. Sai come cantavano, no? Una subito volta. All'attacco, hai sentito? Subito all'attacco, no? Su, e sai che come cantavano? E che devo fare? Siete voi che siete lontani. De Angelis non si offenderà, ma quando la voce era così lontana, sai cosa cantavano i compagni? Cosa, sai o no? Cosa cantavano? Fascisti, carogne, ma che c'entra? Ma sei sempre... Non c'entra niente. Mi scusi, De Angelis. Prego. Ogni tanto c'è Parenzo che sbarella. Qualcosa degli anni 70 per ritornare un sì, po' nella battaglia. Sì, vabbè, ma sono cose passate. Siamo anziani. Quanti anni ha lei, signor De Angelis? 52. Beh, insomma, si riporta bene, non si riporta molto male. Molto bene. Si sei in forma oppure un po' ingrassato recentemente? No, anzi, sono dimagrito parecchio. Da quando sto al Secolo ho perso 8 kg. Da quando sta al Secolo ho perso. Ma è vero che la signora Perina vi vuole mandare in bancarotta? L'ex direttore vi ha chiesto 800.000 euro. Quant'è che è vero che ha chiesto 850.000 euro poi sulla bancarotta? No, dico se no, ho capito. Avete perso più copie o più chili? Più chili, beh, oddio, no, più chili no, perché significherebbe che abbiamo perso più di 8 copie. Abbiamo prima guadagnato più di 8 copie e poi l'abbiamo riperse. Sì, vabbè, ma se vince questa causa vi mette in grossa difficoltà, però, no? Cioè, dovete chiudere o sbaglio? No. Quasi. Beh, dunque, allora in quest'anno praticamente abbiamo perso numerose cause per licenziamenti avvenute sì. quando c'era Flavia, ma anche prima, e sì. che sono quasi equivalenti a quello che ha chiesto lei, quindi sostanzialmente le difficoltà economiche ci sono già e potrebbero solamente peggiorare. Pare che ci sia, quantomeno la settimana scorsa c'è stato un incontro con i liquidatori di Alleanza Nazionale, non del Secolo, i vari soci, tra cui ci sono anche quelli che gestivano il Secolo prima, e sono addivenuti sostanzialmente la decisione di cercare di fare una tregua. Praticamente chissà se la vuole la tregua la signora Perina, non lo so, però sostanzialmente per un periodo, almeno per qualche mese, almeno per pagare gli stipendi dei 25 dipendenti che sono credo quelli che stanno un po' a cuore a tutti. Vabbè, senta, lei in Senato non so qua, è vicino o lontano da lei il senatore Ciarrapico? Allora, innanzitutto io non sono più al Senato, se mi hanno informato, io da questa legislatura sono alla Camera. E perché mi hanno scritto Senato a me? Mi sono informato male io. Che una volta senatore si resta senatore sempre, anche se si va a dormire si resta sempre Gaia, senatore vabbè, allora, tocca, e allora vabbè ma è colpa mia perché Ciarrapico è venuto al Senato quando io già non c'ero più quindi ma molto lontano un altro palazzo, ma è molto lontano in generale. Beh, diciamo anche come età, spero anche solo come età, come visione del mondo, anche un po' tantinello. Ma è sempre PDL, c'è scritto però, PDL. PDL c'è tanta roba. Come il PD e come prossimamente il terzo polo, insomma, un cartello piuttosto ampio. C'è un sacco di roba là dentro. Beh, sì. No, perché la settimana scorsa è venuto da noi, ha detto i gay fanno schifo, a Carbonia li trattavano bene. E vabbè, che vuole fare? Ma ci sta bene in un Parlamento, lei per carità nel passato non ha mai detto cose del genere, però ha fatto parte di movimenti come dire, come si possono definire, extra parlamentari? Sì. Ma parlando di 30 anni fa, di 30 anni fa. Che 50, uno che ha 50 anni è identico a quando ne aveva 20, no, ha buttato 30 però, anni della sua vita. Però c'è Rapido invece uguale. Ma potrebbe essere peggiorato rispetto a 20 anni fa, questo non lo so, io non lo frequentavo allora, per cui non. Beh, mi sta dicendo è peggiorato rispetto a 30 anni. No, non sono in grado di. C'è uno che non cambia idea su queste cose e che rimane coerentemente fascista, questo secondo è lei è peggiorato? Beh, non credo che queste siano idee fasciste se uno vuole fare della semplicemente storia del pensiero politico. Poi voglio dire, sono visioni che lui esprime personalmente, quindi bisogna chiedergliela a lui. E gliel'abbiamo chiesto, infatti, e conferma. No, ma io sono abbastanza refrattario a parlare degli altri. Sì. Senta, ma a proposito di altri, c'è un caso che è scoppiato, non so se sia una persona che lei frequentava, forse è più giovane, direi, anzi sicuramente è più giovane. Sì, il console Battani. Sì. Signor ex Battani. Console. No, non è ex console, non è vero, non hai capito niente, come al solito. Non hai capito nulla. Ma no, non hai capito niente. Vabbè, stai prevedendo. L'hanno richiamato, non sospeso, poi deve essere. È giusto secondo lei che uno va a un concerto, fa quello che fa, delle canzoni? No, non è un che... concerto, tu dici, ma è un concerto di Venditti. No, è un concerto, ma no, un concerto di una band musicale che era conosciuta anche prima, che non è fuori legge. Dice, ma è concerto, fa un mezzo saluto, fa un mezzo saluto romano. Le canzoni rimandano a cose della Repubblica Sociale contro la Repubblica Italiana, eccetera, eccetera. È giusto sospenderlo oppure è semplicemente libertà di espressione e di pensiero? Ma io non ho visto il video, quindi non so giudicare. Delle canzoni ho letto da un articolo di Buttafuoco sul Foglio che da quello che riportava non mi sembra che fossero poi così tante apologetiche. È ovvio, è evidente che quello che uno fa, se ovviamente non ha rilevanza penale, quello che fa nella sua vita privata sostanzialmente non dovrebbe particolarmente incidere sul giudizio della sua professione, ma chiaramente in questo caso deciderà la Farnesina. No, ma quello lei se la cava diplomaticamente così, però la cosa che voglio sapere da lei è, uno che va a un concerto, partecipa a una band, da tempo peraltro, fa diciamo anche un saluto romano, però durante, come dire, durante la performance, e nei testi delle canzoni ci sono dei rimandi al fascismo contro la Repubblica Italiana, insomma vaghi o espliciti, adesso non ci mettiamo qua a discutere, può continuare tranquillamente a fare il diplomatico? Questo lo decide la Farnesina. Dal mio punto di vista, scrivere e cantare non può certo avere una rilevanza penale, eversiva. No, penale non c'è sicuramente. No, insomma, voglio dire, abbiamo dei gruppi musicali che cantano come si ricordava prima, un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista, e hanno dei contratti con la Sony e sono lanciati da Sky. Quindi voglio dire, Vabbè, insomma, lei dice è libertà di espressione di pensiero, può tranquillamente continuare a fare il diplomatico, sarebbe grave se uno fosse, come dire, punito per una cosa del genere, o sbaglio? Cioè... Io tendo a professionalizzare, quindi secondo me uno deve fare bene una cosa alla volta, quindi non so, secondo me, senza cattiveria, credo che Battani sia più bravo come diplomatico che come cantante, ma questa è una mia valutazione di carattere artistico. Questo è come carattere artistico. Onorevole De Angelis. È diventato democristiano, signor De Angelis, devo tornare subito, diplomaticissimo. Tanto per fare un riferimento ai diplomatici. Io ho il cuore nero e tanta gente mi vorrebbe al cimitero. Lo sai di chi è questa voce, Parenzo? Non sento bene, sento solo la parola cuore nero, ma non promette niente di buono. Ma perché non promette niente di buono? Cuori neri, tra l'altro, è il titolo di un libro, libro fortunato di Telese, ma non c'entra niente. In questo caso la voce è dello stesso onorevole De Angelis, che può essere definito, forse con qualche forzatura, De Angelis, se lei me lo consentirà, può essere fino a una sorta di, come dire, di mentre c'è il diplomatico, come è stato definito, fascio rock. Lei è il deputato fascio rock, sbaglio? No, io ho fatto, appunto, come dicevo prima, delle scelte, cioè quando cantavo, quando mi sono messo a fare il parlamentare mi sono messo a fare il parlamentare. Però canta ancora o no? No. Ah, non canta più, quando è che ha smesso di cantare? Da quando fa il parlamentare? Da subito prima di diventare parlamentare. Ah, da quando è diventato parlamentare non fa più parte di questo gruppo? sai, non faccio più parte di questo gruppo, non c'è più il gruppo. Non c'è più il gruppo e dunque non le canta più. Beh, anche lì c'erano dei bei riferimenti, pure con la polizia. C'è una canzone sulla polizia che potrebbe essere tranquillamente adottata dai Notav, eh? Guardia, guardia, che cazzo ti guardi, che cazzo ti guardi, guardia, guardia, guardia, no? Sì. De Angelis, certo. O sbaglio? Sì. Beh, riferimenti forti, O sbaglio? Ma era, che cos'è, Goliardia? Anche, sì. Com'è? La ricanterebbe? Le ricanterebbe queste canzoni? Ma dovrei ubriacarmi, siccome non bevo più, immagino che no, non potrebbe, non succederebbe. Vedi, le persone cambiano. Persone, io ieri ho fatto una tirata a difesa di Azzolini, infatti possiamo chiedere anche un parere al signor De Angelis sul caso Azzolini. Che io no, io non lo difendevo. Non è che difendevo, io Azzolini non me ne frega niente, la scelta di Pisapia. Pisapia ha fatto bene a mettere nel suo gabinetto una persona che è stata implicata in anni passati, immagino che la sua risposta è scontata. Immagino che la mia risposta sia scontata, sì. Cioè sì, ha fatto bene, sì, ha fatto bene. No, ha fatto bene, ha giudicato lui, ha fatto le sue valutazioni. Ovviamente se le sue valutazioni sono di carattere professionale, sulle sue competenze professionali, il fatto che sia stato coinvolto negli anni 70 in una vicenda per la quale poi appunto ha sufficientemente pagato, non può sostanzialmente inficiare la sua esistenza per sempre. Se poi è un bravo professionista e lavora bene, non vedo perché uno lo debba mortificare. Cioè, secondo lei un incarico nello Stato da parte di una persona che è stata condannata per vari motivi, eccetera, eccetera, che ha sparato negli anni 70 non le suscita nessuno scandalo? Io non sono portato allo scandalo, io faccio il legislatore, anche se uno se lo dimentica, e di conseguenza mi baso sulle norme. Allora, ci sono delle norme che impediscono l'accesso a determinate lavori, carriere o funzioni istituzionali, e quando invece ovviamente non ci sono leggi che le impediscono, significa il legislatore fare. Vabbè, questo non c'è dubbio, ma è opportuno politicamente, oppure secondo lei il fatto che... Ma io non credo nell'opportunità politica, cioè il giusto e lo sbagliato dal punto di vista della vita di qualcuno. Se qualcuno fa un errore a 18 anni e poi lo paga, poi non è che lo deve pagare per il resto della sua vita, anche perché si presuppone che magari abbia effettivamente modificato la sua visione del mondo, o semplicemente è una persona cambiata. Di conseguenza, se è un ottimo professionista e a 18 anni ha avuto una visione diversa del mondo, non significa che non può essere un ottimo professionista a 50, 52, 55. No, però tornando alla questione delle canzoni, delle sue canzoni, lei ci dice: io quando ho fatto deputato ho smesso, non c'è più quel gruppo, non canto più. Erano canzoni che avevano anche dei riferimenti al fascismo, eccetera, eccetera, anche se insomma abbastanza. Generici, sono sempre delle canzoni, ma la domanda è questa: un diplomatico invece le può cantare quelle canzoni secondo lei? Le mie? No, le sue canzoni, come dire, che fanno riferimenti al neofascismo, comunque al fascismo, cioè, è legittimato a cantarle, le può cantare, oppure si dovrebbe, quando inizia la a fare la funzione, imporrebbe un comportamento diverso anche nel privato, che però il privato non è quello, perché... Ma Battiato fece una canzone che era intitolata Sono solo canzonette, quando poi da sinistra lo attaccarono per sue espressioni pubbliche. Una canzone è comunque una canzone, va giudicata all'interno. Comunque è ovvio che per ogni professione si presuppone che ci sia un codice deontologico. Il codice deontologico, la Farnesina c'è, di conseguenza giudicheranno in merito al codice deontologico. Se io volevo fare il giudice piuttosto che fare altre cose, finivo i miei studi di giurisprudenza. No, ma io non le chiedo di fare il giudice. Un concorso pubblico, mi sedevo su una cattedra e decidevo. No, ma non le chiedo di fare il giudice. Non le chiedo di fare il giudice. E della vita altrui. No. Ho preferito fare un'altra cosa nella vita. Non è che poi a 52 anni mi metto a fare il giudice della vita. No, ho capito, però lei fa il politico e può giudicare se un atteggiamento da parte di un diplomatico che è della Farnesina è consono alla sua, come dire, alla sua funzione. Se io sono un buon politico, mi rimetto alla Farnesina per esprimere giudizi, altrimenti sono un pessimo politico, sono un chiacchierone che mette bocca su cose che sostanzialmente non gli competono, quando invece quello che gli compete dovrebbe essere affrontare le questioni normative, intervenire sulle leggi, se le leggi sono sbagliate tentare di cambiarle o aspettarsene sostanzialmente l'applicazione. Però una frase l'ha detta: sono solo canzonette. Questo si può dire. No, io non ho detto che sono solo canzonette, ripeto, probabilmente chi le scrive sa se sono canzonette o meno, ma non sono canzonette. Oppure c'è un critico musicale che potrebbe esprimersi. No, ma non è questione di critico musicale, lei sa benissimo, la questione è altra. Cioè, la questione è altra, però insomma capisco che si diventa molto diplomatici e molto cauti quando si parla di queste cose, vero Parenzo? Cioè... Mi sembra di sì. Senta, lei capisce quel giovane che è salito sopra il traliccio? Cioè, lo capisce, capisce la protesta? Sì, cioè, a 37 anni non è che sia molto giovane. Pure questo è vero. pure questo è vero. Quel ragazzo, però, diciamo, quel ragazzo, no, quel ragazzotto. Sì, un uomo, se effettivamente animato da forti passioni, può anche fare dei gesti inconsulti, come credo. Ma sei un po' cercata? Sei un po' cercata? Cioè, è assurdo, ho detto che un gesto inconsulto, è assurdo, pretestoso e francamente vergognoso cercare di farne una vittima della polizia per buttare appunto benzina sul fuoco e scaldare gli animi, eccetera. È effettivamente abbastanza indelicato con una persona che ancora non si sa se sopravvive o meno, quantomeno che versa in gravi condizioni, fare ironie titoli come quelli che ha fatto il giornale. È quel titolo del giornale, anche lei lo giudica veramente fuori luogo? Non anche io, vergognoso, io credo. Visto, cioè, non è che effettivamente no, può tirare fuori il mio passato solamente come gli conviene. Cioè, se vuoi tirare fuori il mio passato, se ne deduce ovviamente che io possa essere più sensibile in questa situazione e che chiaramente avrei una visione diversa da quella che stai dicendo. È vergognoso il titolo del giornale, come lo definisce? Di cattivo gusto. Di cattivo gusto. Sì, grazie, grazie. Prego. Bene, siamo qui, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Caro Parenzo, collegato con il Granducato di Siena, eccoci qui anche su TGcom 24 per chi... Che bello che sei, ti sto vedendo anche in televisione, questa camicia bianca. Ma perché, dove sei? Rinchiuso a casa, dove sei? Sono a casa con mia figlia, le sto facendo mangiare un hamburger, la vedo in televisione, guarda che bella foto, cioè, mi ha messo. Non hai fatto nulla tutto il giorno, come al solito, vabbè. No, ma perché quando non ci sono... Io lavoro a James Bond, quando James Bond è in missione gli dici, caro James, non hai fatto nulla tutto il giorno. James Bond la sempre, no? Ah, se ti stai paragonando a James Bond, questa è la... Guardati, con la camicia bianca, questo bel capello, sei un uomo affascinante. Ma la radio, non vedono nulla. Sentiamo la strepitosa imitazione della Cancellieri, secondo me fatta... durante il programma della Dandini, il ministro Cancellieri, sentiamo. Che è successo, diceva l'altra sera? È successa al Consiglio dei Ministri, una cosa gravissima. Tipo? È squillato un telefonino, uno dei quei pochi che hanno lasciato. Ma è terribile. Non lo so che è terribile. Allora, Monti steso secco proprio. A Giarda gli sono vibrate le orecchie. Io ho anche battuto le facce con Giarda pure. Anche perché non è che era la suoneria classica tipo trin, trin, trin. E tipo? Era una suoneria un po' estrosa, personalizzata. Ma come? No. Ma quella è quella normale. La suoneria patta proprio. Come sembra, vabbè. Mi senti tu? Vai, vieni. Il ministro Cancellieri durante The Show Must Go Off sulla 7. Facciamo entrare il mitico mondo del TG3 con i titoli, il TG3 di Bianca Berlinguer in diretta sulle reti Mediaset. TG3, titoli. Ti piace? Mi piace moltissimo, titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Ancora alta tensione in Val di Susa, proteste, blocchi stradali in molte città, sempre grave l'attivista Notaf caduto dal traliccio. Sulle proteste Notaf interviene il governo, serve il dialogo, dice Cancellieri, ma i lavori devono proseguire, avverte Passera. La Costa Allegra rimorchiata da un peschereccio, solo giovedì arriverà alle Seychelles, tutti bene a bordo ma manca la corrente. Task Force contro l'evasione fiscale, Monti meno tasse se pagano tutti. Nel 2011 recuperati 12 miliardi, ma si può fare di più. Il pacchetto liberalizzazioni domani in aula, probabile la richiesta di fiducia, intesa sulle farmacie, protezione civile senza grandi eventi. Dalle banche più tempo alle imprese per rimborsare i prestiti, una spinta alla ripresa, bene l'asta BTP, Grilli, la situazione si normalizza. Rischia di chiudere per i tagli il centro di neuropsichiatria infantile creato da Giovanni Bollea, protesta degli operatori e delle famiglie. Gerani, mettiamo Gerani sui Balcani che vengono lontane le zanzare. E invece di essere lontane le zanzare sono qui ad accompagnarvi fino alle 21. Beh, iniziamo subito con ascoltatori, iniziamo con cose da farvi ascoltare. Ci accompagnerà, non so fino a quando, una delle persone più care al nostro programma, una persona che di recente è diventata l'esperta di finanza del signor Scilipoti. Aiuto. Sara Tommasi, eccoci qui, cara Sara. Buonasera, buonasera a tutti. Scusate la voce, ma che c'hai? Non hai la voce? L'ho fatta apposta, scherzo. Non hai la voce. Mi ha parlato anche la voce, signora Tommasi. Ma quello che lei mostra. Un attimo, vabbè, Parenzo, lo sai che ho quando sei. Ho parlato tantissimo al Libero, TG3, le Iene, Repubblica, l'Avanti, insomma, è stato un susseguirsi di d'estate, quindi è tutto il giorno che parlo. Scusi, e poi, ma lei basta che si toglie vicina. Lei basta che si toglie le mutande e va senza mutande, la intervistano tutti, questo è il trucco, no? Basta togliersi le mutande e farsi intervistare. No, non lo so, io cerco di sensibilizzare la gente. Fermiamo le banche, quindi a far capovolgere l'ordine delle cose, fare in modo che l'Italia torni in Serie A. Ma di che stiamo e parlando? Che non siano più le banche a stampare cartamonette. Ma di che parliamo? Ma quali banche? Siano, ma siano gli stati. Ma di che parliamo? Che oggi su D'Agostia hanno scritto che io sono fidanzata con la mia avvocato, dottor Marra. Ci tengo a precisare che è un'assoluta fandonia, noi siamo amici. Che e vuol dire se poi amici? Cosa ci ma sia l'avvocato Marra lui non è ai fini politici rilevanti. Fini politici rilevanti. Adesso signora Tommasi, ma lei è un fiume in piena, cioè parla di signoraggio, di banche, poi del fidanzamento. Ma la Valentina Boccognana sa. Lo so, la parecchia la Bocconi parlano molto. Monti non è che ci abbia sta parlantina. No, perché vabbè, non siamo tutti uguali, però io ho studiato moltissimo e quindi sono abituata all'arte dialettica. Senta, ma come si fa come a diventare esperti? Scusami. Ah, io come Socrate, le ha detto, no, attenzione, io come Socrate. Amico, c'è un problema, come Cruciani. Mio amico Socrate che ho tanto amato durante il periodo del liceo. Hai capito, Parenzo? No, c'è un problema, Cruciani, lo segnalo a te, alla signora Tommasi. È tutto finito qua. Non torniamo più. Hanno sbagliato foto. Non torniamo più. Che è su TGCom 24, per chi lo guarda in TV, hanno sbagliato foto, hanno messo la foto della faccia della signora Tommasi. Ah, invece che dovrò mettere? Che cosa hanno messo? Perché la faccia hanno messo, dovevano mettere quell'altra cosa che ha mostrato ieri. Ma non ha mostrato niente, era una finta, c'era una calzamaglia spessa come esatto, non so che. Era un guanto per incitare tutti a usare il guanto. Cioè, come a usare il guanto, scusi? Quando si fa l'amore. Cioè, non cos'è capivo bene, io sono ignorante in materia, scusi. Usiamo tutti il condom. Ah, facciamo un grande appello alla Chiesa, al signor Ratzinger qui. Brava. Faccio un grande appello, no, basta parlare di banche. Amici che state in Vaticano, modernizzatevi, signori del Vaticano. Vai. Portiamo avanti la campagna per la sensibilizzazione nazionale contro le DS, portiamo tutti la calzamaglia e il guanto a letto. E dunque mi raccomando. E dunque e usiamo tutti il condom. Usiamo tutti il condom, brava. Altro che banche, ma sono questi per i problemi del signoraggio bancario. Ma di che stiamo parlando? E questa è la cosa fondamentale. Su, cara Tommasi, fa bene a fare questa battaglia. Lo dica al signor Ratzinger, faccia un appello pubblico al signor Ratzinger che è lì in Vaticano. Lo vada a trovare, magari, insomma, se lei riesce la benedizione. Beh, adesso non guardi, se lei riesce a incontrare il signor Ratzinger, io non conduco più questa trasmissione. Facciamo così. Se lei Se lei riesce a incontrare Ratzinger è tutto davvero finito. E io se Cruciani non conduce più io ebreo mi faccio parroco. Ha capito? Ma addirittura. Siamo pronti a scommettere che lei non può mai incontrare il signor Ratzinger, però noi vorremmo moltissimo che lei cominciasse. Vivrò anche senza questa benedizione, per l'amor di Dio. No, lei dovrebbe iniziare questa nuova campagna. Lasci perdere questa le banche. Lasci perdere questa le banche. Faccia una bella battaglia. No, perché le banche sono una campagna molto importante, perché obiettivamente hanno fatto morire milioni di persone con tassi euro piazza. Sì, perché un tempo c'erano i tassi euro piazza che hanno portato le. Vabbè, adesso persone, non ci addentriamo. Come dice l'onorevole Scinipoti, le persone, citato. E le famiglie e le imprese anche a morire senza fondi. Lei dice, Ha capito? Sì. Certo, perché usavano queste doppiate. Senta, io sono curioso di sapere una cosa, sono le 19:24, spero di non offendere nessuno, eccetera. Ma io vorrei capire da lei, che è stata sempre un po' ossessionata dal sesso, poi ha detto che si è fatta un po' curare, eccetera, eccetera. Ma scusate, ma ha fatto lei un conto l'ha fatto? Con ho guarito tutte le mie trasgressioni. Con quanti uomini è stata? Non mi ricordo. Più di 1000 o meno di 1000? Contano sul punto e sulla punta delle dita. Sì, vabbè. Dei palmi delle dita. Ma quando mai? Sì di 1000 piedi però. Appunto, dai. Su. Quanto? E poi non è questa l'importanza rilevante ai fini politici. Ah, ma quello non c'è dubbio. E poi però ci può. Un momentino il mio avvocato, il signor Marra. No, aspetti, ma che? No, ma che Marra? Vai. Marra, dopo. Marra subito. Avvocato. chiedo scusa. Avvocato, scusi, stiamo... Chiedo scusa, Marra, ma lo so, so che quando mi volete chiamare, ovviamente mi chiamate. Marra, ma so. Che circo ha messo i piedi, Marra? Sì, scusi, Marra, Marra, io ma siete fidanzati o no? Cruciani, ma perché non mi parla degli argomenti miei tipici? Ma quelli ne parleremo, ne abbiamo già parlato. Quando? Bisognerà che prima o poi ne parliate per forza. No, che ma, siano ma poi... non c'è dubbio, io vorrei capire, sono curioso di sapere. Non mi faccio aggiungere altro, le ripasso Sara. Ma io non mi vuole rispondere a questa domanda, una domanda che sta interessando tutta la Roma. Scusi, Scusi. Ma no, perché la campagna importante è quella di fermiamo le banche, sì, non distogliamo certo. L'attenzione su altri no, argomenti che perché, non hanno rilevanza perché, giuridica no. e sociale per la campagna di cui ci stiamo battendo. No, non è importante carità. Di quante volte io sono andata, con chi e con quando, dove e perché. No, non interessa a nessuno degli italiani. Gli italiani Insomma, cioè, come si può fare per pagare meno tasse? Allora, Luigi Marra sostiene che se gli stati tutto vanno finito, a stampare la moneta tramite le zecche dello Stato, in questo modo noi pagheremo meno tasse. È tutto finito. Una general tax che permetterà di includere tutte le tasse in un'unica zona, dimezzarle tutte a una tassa unica del 20-25%, in modo tale che non pagheremo più quel 40-45% che stanno facendo. Perché la metà dei soldi degli italiani. Signor Tomasi, sempre allo Stato. Pronto? Dica. Sì, dica. Si fermi un attimo. Lei capisce bene che va benissimo tutto. Lei è bocconiana. Benissimo, tutto benissimo. Va tutto bene. Però, signora Tomasi, c'è stata Alexio Magistralis di economia, amica mia, qui per, insomma, no? Un minimo est modus, no? Ma no, perché un attimo solo, fermi tutti. Che ho letto approfondito, che sto portando avanti con tanta devozione e ammirazione verso il mio mentore, avvocato Luigi Marra. Mentore. Non riuscite a capire, non è casa mia. No, ma io capisco tutto, per carità, capisco che è tutto finito. Che un attimo finito. Solo, 800. Allora è finito. No, ma in tutto. Generale è tutto finito. No, tutto. Se, tutto combinato. Lei è comunque l'esperta di finanze del signor Scilipoti, giusto? Giusto. Di finanza, ecco. Scusa, no, di finanze, che è un'altra cosa, di finanza. Di finanza. Di finanza, cioè come se fu, come dire, è la il Tremonti di come Tremonti no. Con Berlusconi, diciamo, il no? Visco. Il visco della anzi il Fassina, lei è il Fassina. Per l'amor di Dio, sarebbe un mostro sacro ripercorrere quegli esempi. Ah, cioè, il Visco di Scilipoti, praticamente. Sacro, con un altro stile, il signor Visco non ha mai fatto vedere il culo. È uno stile leggermente. Beh, non ha mai mostrato le chiappe, le cose, però va bene così. Cioè tu... Ma guardi che le mie colleghe l'hanno fatto per molto meno. Cosa? Cioè? Mostrare le chiappe. Per lo stadio, per le campagne degli animali. Ma sì, ma infatti guardi, di fronte a tutti i bambini. Ma guardi che per me non infatti c'è problema, non c'è problema. Va bene. Carlo da Foggia 800 24 00 24. Un attimo solo, signora Tomasi, resti lì. Carlo da Foggia. Buonasera. Soltanto Scilipoti potrebbe avere una consulente finanziaria di questo tema. Io volevo soltanto commentare le affermazioni di Belpietro. Che ha fatto Belpietro? Ha detto che praticamente quel signore della Val di Susa che è caduto dal traliccio se l'è cercata, ha lanciato questo in modo provocatorio questo sondaggio. Beh, allora, visto che è successo, cosa è successo ieri sera alla sede di Libero di Milano, devo dire che il signor mezza calzetta Belpietro se l'è cercata, no? La sede è devastata, quindi lui è andato a cercarsi questa devastazione, questo atto vandalico, quindi sta. E certo, belli sta. In che senso? Cosa dobbiamo aggiungere? Belli sta, cioè va bene assaltare la sede di Libero, assaltare. Cioè, certo, se tirare lui usando lo stesso metro di pensiero che usa la mezza calzetta Belpietro, devo dire che ben gli sta. Certo, e cosa devo dire? Torniamo dopo la borsa, un attimo. Eccoci, 19:33, 800 24 00 24, torniamo in diretta con la Zanzara, anche su TGCOM 24, se non erro, se non vado errato, eccoci qui, certo. Tra un istante. Dunque, abbiamo, voglio farvi ascoltare Beppe Grillo sulla questione di no TAV, sulla questione TAV. Beppe Grillo, andiamo, porca puttana, dice, non serve. Via. Ma a chi servono queste cose qua? Perché porca di una puttana, io vorrei capire cosa c'è dietro questo sistema qua, perché lo capirebbe anche un bambino che non serve la TAV, un tunnel di 50 km in un monte, e sono anche contro il partito di Sarkozy, la Corte dei Conti francesi, sono cifre che non stanno in piedi, progetti di 15-20 anni fa quando le merci giravano, i mezzi camion sono vuoti, sono tutti vuoti i camion, girano, spostano container vuoti. Solito grillo sulla TAV, fra poco ne parleremo. Con quei soldi, sì, quei grillo. Soldi si potrebbero utilizzare per la banda larga, dice Grillo. Chi c'è dietro? Le banche? Le banche? Perché hanno questo interesse le banche? Dove vanno a finire sti soldi? A chi sti soldi? 1 miliardo e 2 di finanziamento e poi gli altri chi ce li mette non si sa. In un momento così disastrato con quei 22 miliardi che verrebbe a costare potremmo finanziarci la banda larga. Potremmo finanziare la rete, potremmo fare progetti di sviluppo, dare lavoro a piccole e medie imprese. Ma perché fanno queste cose qui? È l'ora di capire questa operazione. I soldi della TAV. Va bene. Poi Cremaschi, nostro amico Cremaschi della FIOM, che dice non è terrorismo quello lì, quello dei rivoltosi, quelli che si oppongono, quelli che vogliono impedire i cantieri, la nascita, l'apertura dei cantieri. Bloccare le autostrade fa parte delle iniziative di lotta, non è un esempio, lo abbiamo fatto anche con i contratti, anche quando c'è una fabbrica in crisi. Si può discutere di queste forme di lotta, ma bisogna sempre discutere delle ragioni. Non è terrorismo questo, non ha niente a che vedere con gli anni 70. Quindi... Adesso senza fare paragoni, non ha niente a che vedere con gli anni 70, però certo anche oggi treni bloccati, eccetera, eccetera. Vabbè. No, non è terrorismo, perché se uno blocca un treno è normale che metta in conto che arriva la polizia e sgombera tutto. Sì, se uno vuole attaccare un cantiere o comunque no, impedire che nasca o cominci a lavorare un cantiere che è stato deciso da istituzioni democratiche, ma che ovvio. È stato messo in piedi da istituzioni democratiche, è normale che intervenga la cosiddetta forza pubblica. E a questo punto io voglio farvi risentire il democratico, il pacifico, il tollerante Perino, leader dei notav, ieri al telefono con i due conduttori della Zanzara, il signor Cruciani, qui presente, il signor Parenzo, collegato da Siena, perché dopo aver spiegato che secondo lui la polizia era colpevole di quello che è accaduto, si è lasciato andare ad alcune espressioni nei nostri confronti, che noi accettiamo volentieri, anzi trasformiamo nella nuova sigla della Zanzara. Perino. È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde. Beh, signor buono Perino. Buono anche il tutù finale. E buono anche quello, che bel regalo che ci ha fatto, che straordinario regalo che ci ha fatto, signor Perino, caro signor Perino, caro democratico troppo, Perino. Signora Tommasi, è ancora lì lei? Sì, sono qua. Ma perché non c'è? Lei senza voce sembra una persona di un altro sesso quasi. Ah sì, un trans. Beh, l'ha detto lei. Beh, no. Vabbè, che ne so. Oppure? Oppure no, quello volevo come dire. Ma cazzo, magari fossi maschio, se rinasco nasco maschio. Perché? Così è tutto il potere del mondo. Perché? Ah, perché per il potere, lei dice, no? Quando per è stato? Scusi, però oggi c'è stato l'ultima volta quando ha fatto sesso recentemente. Ma no, ma perché queste domande, sempre le solite domande da sporcaccione. L'ultima volta con il mio ex fidanzato giorni fa. Giorni fa, vabbè. No, come giorni fa? Sta male. Ex fidanzato, ha detto, ex fidanzato. Il Conte, il famoso Conte, no? Non è Conte, è Nobile. È Nobile. Sono tornata single, sto benissimo, adesso sto vivendo il mio periodo di serena tranquillità nella mia casa milanese che mi ha lasciato il mio fidanzato. Pure, pure. Certo. Gli ha azzottato la casa, gli ha grattato la casa. La pelata, E poi con il mio avvocato. Ma quanti soldi è riuscito a grattare al signor fidanzato Conte Nobile là? Quanto ha grattato? Questo non è di suo, non posso, non è di suo interesse. Subito un po' l'ha grattato a casa. Però un po' di cose l'ha portata a casa, sì. Vabbè, direi a mani vuote non torno mai. A mani vuote in realtà non torno a mai. A mani vuote ho detto. No, sono io che ho sbagliato, mi scusi. È una grande professionista, è una grande, ha detto certo, che... è il mio mestiere. Non avevamo dubbi che è fosse di una pericolosità assoluta. Maschi all'ascolto, uomini ricchi all'ascolto, state occhio lontani alla signora occhio alla signora esatto. Tommasi, state molto molto lontani dalla signora Tommasi. Senta, è però pericolosa. Oggi c'è stato un comunicato. Le piace ad esempio a lei il, non so, un uomo può, si fidanzerebbe mai con un operaio della FIOM ad esempio? Beh, se lo fa bene sì. L'importante è che lo faccia bene. Questa è una risposta da massimo livello, top level, qui siamo al top. Soprattutto che abbia dei buoni connotati, altrimenti in che senso, mi allontano subito. In che senso dei buoni connotati? Fisici, cioè, che c'è per tanta. Ho capito, vabbè. Se no faccio subito il casting, giù. Ah, è prestante? No, arrivederci. È così, ma se uno non è prestante ma c'ha un sacco di soldi? Ma non è sufficiente. Niente, ci vogliono quelli prestanti. Il signor Marra da questo punto di vista com'è messo? Non lo so, non l'ho conosciuto a fondo. Non l'ha conosciuto, Vabbè. Ma io scusi, oggi c'è stato un comunicato assurdo, addirittura a doppia firma, da parte Sara Tommasi e Alfonso Luigi Marra. Comunicato stampa. A doppia firma, no. Una cosa incomprensibile, devo dire. No, la verità. Abbiamo spiegato. No, non avete spiegato niente, non si è capito niente. Semplici, non si è capito nulla. Parole semplici. Abbiamo spiegato che, poiché questa mia battaglia culturale. Culturale, sempre culturale, sì. E politica contro le banche. Assolutamente. Le persone a me vicine, tra cui la mia famiglia, il mio entourage, il mio ex fidanzato. Vogliono impedire? Cercavano di impedire questa mia attività politica, dichiarandomi folle. Pazza. E volendomi far fare delle cure psichiatriche e di medicinali non adatte e non giuste per il mio stato. Ma volevano anche impedire la sua relazione col signor Marra, mi sembra di capire da questo comunicato. Esatto, la mia amicizia intellettuale platonica. Esatto. Però Marra dice di no qua in questo comunicato, cioè vogliono descrivere il nostro rapporto come platonico. In realtà non è così. E cioè, questo rapporto tra lei e Marra è platonico o no? Silenzio. Allora, ai fini politici non è rilevante. Vabbè, quello lo sappiamo, non è rilevante. Sono fatti nostri. Ma la carne si è incontrata o no? La carne si è incontrata o no? C'è stata un'unione carnale, sì o no? Ma scusate, cioè, i vostri corpi si sono mescolati in uno solo? Ma vi interessa così tanto? Sì, anche perché siamo in fascia protetta su Mediaset. Ci interessa moltissimo. Mamma mia, per amor di Dio. I nostri corpi si fondono in un'energia platonica infinita. Ma che platonica? Energia platonica. Senti, ma io ho una curiosità. Il signor Scilipoti è prestante secondo lei? Ma secondo me potrebbe. Ah, potrebbe, Ma io non ce lo vedo tanto, signor Scilipoti, Comunque, io direi di chiudere. Il più sexy del Parlamento, il più sexy, quello con cui sognerebbe di avere una relazione. Sì, questa è buona, questa è buona. No, chiedo un incontro immediato con il dottor Monti, che è anche un bocconiano doc. Vabbè, adesso. Voglio fare l'amore con Monti, questo è no, titolo. No, questo qua, voglio. No, chiedo un. Cioè, vorrei un incontro immediato. Beh, un incontro immediato che vuol dire? Un incontro immediato che vuol dire? Un incontro faccia a faccia. Un faccia a faccia con Monti. Sara Tommasi incontra Mario Monti. Due ex bocconiani. Beh, anche qui mi sembra che mi recluti nella squadra di governo. Beh, adesso sono riservo. Questo adesso, anche qui sono disposto a giocarmi, credo, 100.000 euro se lei incontra Monti. Faccia così. Oltre alla campagna. Scommettiamo tutto quello che abbiamo, dai. Allora, facciamo così, signor Tommasi. Chiudiamo questa telefonata surreale in questo modo. A tu per tu. Allora, innanzitutto abbiamo fatto la scommessa. Se lei riesce a incontrare Ratzinger e a fare l'appello sull'uso del condomo, dica sia anche preservativo, io mi dimetto seduta stante da questa trasmissione. Se lei incontra numero due, se lei riesce a incontrare Monti, cioè due bocconiani, viene ricevuta da Monti in un modo o nell'altro, anche se è abile a intrufolarsi eccetera, si presenta davanti a Monti e dice: sa che io sono stata bocconiana, lei pure? E non lo so, a quel punto bisogna decidere, credo che le darò molti soldi. Addirittura. Potrei darle molti soldi, sì, per fare. E allora non ci resta che lasciare porteri ai posteri la tua sentenza. L'abbraccio fortissimo, presto. Brava. A voi, grazie, Cruciani, ti voglio bene, sei fantastico, sei fenomenale, bellissimo. Ciao! Ma come si permette? Adesso questo. Ma hai visto? Cioè, sono stato ucciso in due secondi. Cristian da Perù. Pericolosissimo. Una pericolosità enorme. Cristian, no, eravamo con Carlo da Foggia, aspettiamo, Carlo da Foggia. Sì, pronto? Sì, vada. Niente, io già avevo già detto, mi sembra, cioè sì. Belpietro se l'è cercata. È lei quello di Belpietro. Stavo ascoltando la telefonata che stava facendo con la signora Tommasi. Se fosse stato, le voglio lanciare io una sfida. Se fosse stato Berlusconi al posto di Monti, lei l'avrebbe lanciata questa sfida dei 500.000 euro? Ma cosa? Ma che? Ma stiamo scherzando? No, adesso facendo. Cruciani, mi risponde sì o no. Ma qual è la sfida, la sfida di 500.000 euro sul fatto di incontrare? Se la Tommasi avesse la possibilità di incontrare. Ma guardi che è già successo. È già successo. Ha soltanto 500.000 euro. Ah, è già successo? Sì, l'incontro tra i due già c'è stato. L'incontro sull'aereo, mi ricordo. Disse Sgarbi. È molto prevedibile questa cosa. Va bene, Carlo. Una mano di una gravità inaudita, proprio. Gravissimo. Dove andiamo? Andiamo a Milano, Gaetano, buonasera, 800240024. Buonasera. Vada. Io volevo intervenire, non so se sono fuori tema, sulla questione di Azzolina. Azzolina o Azzolini, credo. Azzolini. Azzolini. Sì. No, io sono un elettore di centrodestra, non ho molta simpatia per gli estremisti di sinistra, tuttavia su questione specifica non ho nulla da dire, ritengo che lui abbia pagato la sua pena e abbia diritto di fare la sua vita, se il sindaco di Milano l'ha opzionato per andare a coprire questa carica, secondo me nulla da dire, non mi scandalizzo per questo, così come non mi scandalizzo per questo diplomatico che si è lasciato andare in questa infelice canzone, tuttavia questo non compromette la sua integrità dal punto di vista della sua professionalità, non credo assolutamente a questo modo moralistico di affrontare le cose, ripeto, sono molto lontano da... Ho capito perfettamente, grazie. Francesco Vibo Valencia dalla Calabria. Francesco, buonasera sì. A tutti. Senta, Cruciano, lei è una persona molto intelligente, fa una dice bella lei, posizione chissà. Senz'altro, è molto interessante. Però io volevo pregarla, quando si riferisce al Papa Ratzinger, non chiamarlo signor Ratzinger, perché il Papa è non soltanto un capo di Stato, ma è il leader morale e spirituale di miliardi di cristiani. Vabbè, mica ho mancato di rispetto al Papa, abbia pazienza, Francesco. Ho chiamato il signor Ratzinger, d'accordo. Se qualcuno si è offeso me ne scuso, ma non mi pare una grossa offesa, insomma, abbia pazienza. No, non è un'offesa, però chiamarlo signore alla stregua di tanti altri signori, e questo può urtare la sensibilità di tanti. E va bene, pazienza, no, Francesco. Non era offensivo, non volevo. Però il Papa ha il Papa, d'accordo, ma qui siamo. Pontefice, Sua Santità, e rispettiamo. Ma adesso Sua Santità, addirittura Sua Santità è una persona. Però chiamarlo, può chiamare me signore, può chiamare Parenzo signore, ma quando ci si riferisce al Papa, chiamiamolo con i suoi appellativi, proprio perché è il leader morale e spirituale di tantissimi cristiani. Io le dico una cosa, lei ha ragione, ma per chiudere questa parte mistica, le dico questo: è più facile che Papa Ratzinger parli a Radio Maria che non alla Zanzara. Beh, questo che c'entra, scusa. Questo mi pare la palissiano, d'accordo, insomma. No. Questo è Missiela Palissiano. Però il Santo Padre alla Zanzara sarebbe buono, Beh, adesso non sogniamo. Accontentiamoci invece di un nostro conoscente barra amico presente. Aiuto. Che no, ma è una persona con cui battagliamo spesso volentieri. Quando dici così io mi preoccupo, perché ci sono una persona con cui si fanno sempre grandi battaglie. Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, buonasera. Bene, buonasera. Come andiamo? Eccoci. E in Val di Susa, dov'è? No, che Val di Susa? Sarà a Roma. Magari sono a Roma, sono stato su fino a sabato. Anche lei si è arrampicato? Manifestazione. No, non mi sono arrampicato. Si arrampicherebbe lei su un traliccio? Forse no, ma più per paura personale, diciamo per scarso coraggio, ma forse sì, bisognerebbe trovarsi in quella situazione. Forse no, forse sì. Si arrampicherebbe o no su un traliccio per combattere il mostro della TAV? Allora, diciamo così, in linea di principio sì, nel senso che ritengo che anche un atto individuale non violento, come quello di arrampicarsi su un traliccio, sta dentro una possibilità di lotta in un contesto in cui il governo è totalmente, non ascolta assolutamente nulla delle argomentazioni della popolazione. Scusi però Ferrero, adesso ho 30 secondi di pubblicità, ma che cosa dovrebbe ascoltare il governo quando l'opera è già stata decisa, siamo in una fase di esproprio, dunque fra poco inizieranno i lavori, anzi gli espropri già sono stati fatti. È tutto già deciso, bisogna ascoltare? Non bisogna ascoltare più nulla, bisogna fare quello che è stato deciso da istituzioni democratiche, non da dittature. Per cui anche i cacciabombardieri, l'acquisto dei 130 cacciabombardieri era già deciso e poi sembrava non si potesse far nulla, ne hanno tagliati 40, vuol dire che si potevano tagliare anche gli altri. Sono stato abbastanza al governo per sapere che le già decisioni sono sempre revocabili se si vuole, e lì si risparmierebbero 17 miliardi di euro. Anche il ponte sullo stretto avevano già fatto espropri, corsi di formazione, tutto. Però, non è che 3.000 persone, però non è il modo, se 3.000 questo... persone bloccano un'opera per 60 milioni di italiani. No, ma al di là di questo, al di là di questo, delle valutazioni, penso che la cosa, come dire, secondo me, e poi ne parleremo dopo la pubblicità, 30 secondi, torniamo anche su TGCom 24. Eccoci qui, 800 24 0024, mi riferiscono, perché non posso vedere bene, intanto siamo tornati in diretta anche su TGCom 24, mi riferisco che hanno messo una meravigliosa foto di Paolo Ferrero che ha dietro una bandiera con una falce e un martello enorme. Sì, è vero. Su TGCom 24. Confermo. Tu che la puoi vedere là, io adesso mi devo distrarre un attimo. Com'è questa foto? Dimmi un po'. Confermo, bellissima la grafica, c'è una bandiera della pace e poi c'è questa enorme, questa falce e il martello e un Ferrero molto molto sorridente, soddisfatto. Sono bravi questi ragazzi di TGCom 24. Bisogna dirlo davvero senza piaggeria alcuna, solita, nei confronti solita, di Silvio. Solita slecchinata, no, di Parenzo. Guarda, sono bravi questi ragazzi, brave persone, mi piacciono molto. Ci manca solo che mi abbiano anche messo quando avevo ancora i capelli e poi era perfetto. Può darsi, non lo so, no, non ce l'hai. No. Però no. C'è delle corna sulla testa, forse un fotomontaggio, non so cosa hanno fatto. Ma non credo che sia perché sono contro i comunisti, non credo. Corna. Devi sapere, Parenzo, che oggi c'è stata una ridicola, secondo me, discussione della signor Bendola e il signor Beltroni, perché è iniziato tutto da Bendola che ha dato dell'uomo di destra a Beltroni, il quale si è piccato moltissimo per questa cosa e ha detto si deve scusare Bendola, io sono ancorato alla sinistra eccetera. Ferrero, ma Bendola si può definire di sinistra invece, quello che dà? Sì, Bendola sì. Beltroni com'è? Beltroni, dunque, ha ragione Bendola a dare delle... No, io penso che Beltroni è un uomo di centro, perista e liberale, diciamo, in questo senso. Magari fosse così. Strampalato che venga definito di sinistra, diciamo. Strampalato che venga definito di sinistra, però non lo si può definire nemmeno di destra. Dunque lei è in una posizione mediana tra Bendola e... No, diciamo che su alcune cose Beltroni ha una posizione di destra, penso all'articolo 18, penso alle liberalizzazioni, su altre non mi sentirei di definirlo di destra, anche perché nel come è organizzata la politica in Italia Beltroni è di centro, insomma. Questo. Senta, le voglio far ascoltare, non so se l'ha già sentito, il modo in cui il signor Perino ha definito noi della Zanzara. Una cosa molto simpatica da gran democratico, uno dei leader dei Notab, però noi li vogliamo bene lo stesso, lo abbracciamo molto forte come al solito. Però si è espresso in questo modo, sentiamo. È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde. E vabbè, ma poi ha chiuso il telefono, ma quello è normale. Un giudizio articolato. Un giudizio sì, articolato, diciamo un giudizio articolato. Però io voglio capire da lei se dà alla polizia qualche responsabilità in quello che è successo l'altro giorno. Sì. Cioè è la principale responsabile la polizia? Io penso che quando un cittadino italiano, proprietario di terreni che vengono occupati dalla polizia, si arrampica su un traliccio, il problema delle forze dell'ordine io mi aspetto che sia quello di cercare una rete per evitare che quello si faccia male, ma non di inseguirlo lungo il traliccio. Cioè dovevano cercare una rete? Assolutamente sì, perché l'Italia non è in guerra con la Val di Susa e quel cittadino italiano che si è arrampicato sul traliccio non è un nemico da abbattere. Ma non lo volevano abbattere. Posso dargli una notizia a tutte e due? Le do una notizia. Poliziotto di Padova che si è arrampicato sulla torre gli stava lanciando una fune dicendogli, questo raccontano le cronache e si sente anche nell'audio del video, ti passo una fune, mettiti in sicurezza. Non è che lo stava tirando giù a forza, gli stava passando una fune il poliziotto. Io non sto dicendo che lo stesse tirando giù, né l'ho mai pensato. Sto dicendo. Sta dicendo che la polizia è la principale responsabile della situazione? No, io ho detto una cosa precisa, se no vi devo commentare come Perino se mi fate dire voi quello che sto dicendo io. No, lo dico io. Sì. Io ho detto che secondo me il poliziotto ha sbagliato a inseguire il Lucas che è salito sul traliccio e invece doveva stare sotto e mettere in condizione che non ci fossero visti. Beh, Ferrero come organizzatore del servizio della forza pubblica, della forza pubblica a Chiomonte è curiosa la cosa, cioè lei pensa di dare lezione alla polizia sul modo in cui deve intervenire in Val di Susa, cioè pensa davvero di poter dare lezione alla polizia sul modo su come intervenire? Ma assolutamente, rispetto a uno che sale sul traliccio, sì, così come se uno si appende a un grattacielo o da un balcone, la cosa che fa la polizia normalmente è di lavorare affinché questa persona non si faccia del male. E io penso che così deve intervenire la polizia, anche quando c'è una forma di protesta estrema contro l'intervento stesso della polizia, perché si chiamano forze dell'ordine, perché esattamente c'è una finalità. Scusi, allora perché è caduto? Perché ha preso la scossa o perché la polizia lo inseguiva? Lui è salito in alto anche perché c'è stato questo episodio e quindi in questo io penso che ci sia un errore gravissimo di come si è comportata la polizia. Cioè se la polizia non l'avesse rincorso e invece avesse predisposto tutto per mettere una rete sotto non sarebbe successo. Dunque la polizia... Se avessero messo una rete sotto dubito che lui si sarebbe buttato giù volontariamente e probabilmente non sarebbe salito fino lì. Bah, però mi sembra veramente una dinamica Ferrero, cioè, no, perché la colpa quando ci sono questi scontri voi dite che è sempre della polizia, secondo voi la colpa è sempre della polizia comunque, no, perché penso, voi pensate, lo dico questo. Io un attimo solo poi mi dice quello che vuole, perché io credo che dentro la mentalità di chi si oppone alla TAV anche in modo radicale come lei ci sia soprattutto questa considerazione, la considerazione è che la polizia lì non ci dovrebbe stare, cioè siccome sono terreni comprati, ma comprati naturalmente per motivi politici, non si devono espropriare i terreni, la polizia si deve togliere, il cantiere deve essere cancellato, distrutto, sotterrato e dunque qualsiasi azione è giustificata, perché lei correntemente mi deve dire qualsiasi azione è giustificata pur di cancellare il cantiere. No, non ho detto questo, io sto parlando in questo caso di un'azione non violenta, non di qualsiasi azione. Nello specifico io penso questo, che in quella situazione noi ci siamo trovati davanti a un intervento della polizia che evidentemente interviene perché è mandata, non è che decide certo. Il poliziotto di andarci, che si comporta a tutti gli effetti come una forza che occupa un territorio. Nello specifico lì non è nemmeno avvenuto l'esproprio. Cioè è stato comunicato la mattina stessa al comune di Giaglione, che è il comune cioè, sono forze di occupazione? È arrivato alle 10 del mattino la comunicazione che il territorio non era più praticabile dalle persone, non si potevano più spostare. Però, mi scusi, queste sono c'è una modalità di intervento su un territorio che a me pare folle, perché lì non sono 3.000 persone, sono l'assoluta maggioranza di una però, della mi scusi, ma è chiaro che lì è una cosa politica. Si oppone ad un'opera. Ma ho capito, ma lì la questione è molto semplice, lo Stato ha il diritto di far aprire quel cantiere, tutto il resto è tutta provocazione, anche l'acquisto dei terreni, è tutto per impedire che questo cantiere apra. Ora, finché si resta nel campo della legalità va bene, finché poi uno vuole impedire fisicamente l'apertura di un cantiere, secondo me l'intervento della forza pubblica è giustificato, ma ne parleremo dopo la pubblicità. 800 24 00 24 con TGCOM 24, l'appuntamento come al solito 20:45, restate lì. Bene, siamo qui 800 24 00 24 con Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifondazione Comunista. Sai Parenzo che io parla piano che sto mettendo a letto mia figlia, per cortesia. Ma chi se ne frega, scusa, con tutto il rispetto, no, di Margherita, di tua figlia, parla però piano, poi parla metti piano. Sempre i minori in campo, parlo piano, stai dormi Verdini, dormi tesoro. Ma che c'entra Verdini? Scusa. Non c'è Verdini, amore, non c'è. Ma che c'entra Verdini? Non c'è il credito cooperativo, non ti preoccupare. Ma sei fissato con Verdini? No, che mia figlia si sveglia sempre la parola Verdini. Ma ho capito, ma scusa, abbi pazienza. Poi dobbiamo pure non invitarlo qui alla Zanzara, Verdini, poi non viene più. No, non c'è neanche Cicchitto, stai tranquilla. Ecco che dorme. Non parlare di Cicchitto, che sennò si sveglia. Ecco, copriamola così, perfetto. È impazzito. Ciao, buonanotte. È completamente pazzo. Sei ossessionato. Se poi si sveglia perché sente la parola Cicchitto, la vieni tu ad addormentare poi. Oggi altro che eroe, solo un cretinetti. Beh, una classica schifezza che da un lato è fatta per vendere copie, stimolando gli aspetti peggiori. peggiori dell'animo umano, e dall'altra esprime una posizione politica che è classica di quel giornale. Diciamo, ho già avuto un modo in televisione di dire una volta a Sallustri cosa pensavo di affermazioni di questo tipo. Cioè, mi dica che cosa? Diciamo che l'ho mandato a quel paese. Quando aveva affermato in un'altra occasione che la polizia aveva fatto bene a sparare a Giuliani, sì, diciamo che aveva fatto bene perché il signor, quel carabiniere si stava difendendo, forse intendeva quello, signor Sallusti, diciamo da un assalto, che aveva fatto bene. Io penso che uno così è uno che è d'accordo con quello che a tutti gli effetti è un assassino, non è altro. E quindi penso che uno che fa così è appunto fa delle è un assassino, c'è anche la legittima difesa nello sparare magari perché si è circondato. C'è anche un eccesso di legittima difesa e sì, in ogni caso le cose che vi vorrei segnalare, cioè scrivere mi dica. È che esiste un fatto che vale anche per la Val di Susa, cioè l'idea se uno è in guerra con una parte della propria popolazione oppure se si rimane dentro una dialettica democratica. Io penso che bisogna rimanere dentro una dialettica democratica e penso che il trasformare sempre la questione della Val di Susa in una questione di ordine pubblico è esattamente un tentativo di non far discutere delle ragioni che ha il popolo contro la TAV, che probabilmente e le ragioni sono molto semplici. Quelle si conoscono, Ferrero, ne parlano tutti da 15-20 anni, come no? Ma non è vero, ma non come si conoscono per nulla. Il traffico che non c'è, il territorio, eccetera, eccetera. Per carità, poi sono legittime. Lei non ha citato quella principale. In Val la questione Tuda, economica, una ferrovia c'è già a doppio binario certo. Viene usata al 30%. Su quella ferrovia circolano normalmente già oggi i Teghevè e non si capisce perché, invece che sprecare 17 miliardi non si possa usare la ferrovia. Scusi, Ferrero, queste cose qui sono state discusse, sono state approvate da governi di qualsiasi colore. Perfetto. Va benissimo, va benissimo che esistono delle persone che si oppongano anche in maniera forte a questa cosa qui, però a un certo punto basta. A un certo punto la storia si chiude, la serranda della Claire si chiude. Mi dispiace, se avessimo pensato così ci avremmo ancora il nucleare e purtroppo c'è voluto l'incidente di Fukushima per fare allontanare il nucleare dalla Germania o da altri paesi, eppure c'è gente che ha litigato e ha lottato contro il nucleare per anni, trattati da fessi, e giustamente poi a un certo punto dopo quell'incidente si è detto forse le statistiche che presentavamo sugli incidenti erano false. E dunque oggi che ci vorrebbero bloccare la TAB? Non basta evidentemente quello che state facendo, quello che hanno fatto tutti i vari movimenti. Evidentemente continuerà questo, infatti io penso che un governo di un paese civile dovrebbe porsi il problema che non può costruire un'opera che dura 15 anni contro la popolazione. Ma che bisogna fare per bloccarla definitivamente? Qualche gesto eclatante, qualche gesto forte? Fino a dove si può arrivare? No, guardi, si continuerà come adesso, in cui la larghissima parte delle lotte sono lotte fatte sempre a volto scoperto e con azioni di massa. Non ci sono azioni terroristiche. No, ma lei sta dicendo questo. Di massa. Di segreti anche di massa. E ho capito, solo che ma se dovesse morire io non me lo auguro, ma se dovesse morire questo qua, questo signore che si chiama Luca Abba, che può succedere? No. Io intanto spero che non succeda, no, credo che naturalmente anch'io l'ho già detto prima, questo è evidente. Qui siamo. Benissimo. Siamo qui. Siamo tutti a sperare affinché Luca Bassi salvi. Sì, certo, questo non c'è dubbio. E di poter fare la prossima manifestazione con Luca Bassi presente. Comunque lei dice la colpa. La vallata come cosa fa? Sì. L'ha dimostrato sabato. Sabato c'è stata una manifestazione di 70.000 persone. 70.000, una cosa enorme. 70.000, la maggior parte non venivano dalla Val di Susa, peraltro. La metà della Val di Susa, la Val di Susa ormai è diventata il punto in cui si raccolgono tutti gli estremismi d'Italia, questa è la realtà, cioè gente non sa il nulla. Il problema è che questa qui è la tesi che viene fatta esattamente per non discutere nel merito. Ma il merito io lo discuto pure, ma ormai è inutile. Chi c'era oggi a bloccare l'autostrada in Val di Susa? Ma è giusto bloccare l'autostrada, la gente lavora, c'è anche la gente. La gente si sposta, non può sopportare il fatto che l'autostrada viene bloccata a ogni piezo spinto, è impossibile, non si può campare in questo modo. Cioè l'economia di un paese ed è anche locale. Bisognerebbe discutere sul fatto che anche il tenere conto del consenso della popolazione popolazione e un fattore economico. Ma non è la popolazione, è una minoranza. Ma che è una minoranza? Scusi un attimo, ma secondo lei in Val di Susa c'è una minoranza? Se addirittura le istituzioni locali, la comunità montana, che le assicuro non è presieduta da un estremista, e contro la TAV, ci sarà una ragione? Beh, il capo, uno dei leader della TAV l'abbiamo ascoltato prima, altro che estremista. Cioè, è quello che è, e ha detto cosa pensava di voi e della vostra Beh, ma non si, beh, ho capito, ma insomma, non è andata proprio così. Non è che pensava con un ragionamento articolato, eccetera, eccetera. Diciamo che ha fatto una sintesi molto stretta. Detto, io ho ascoltato alcune parole dette molto efficacemente, diciamo, ha espresso il suo pensiero con nettezza. Non si può dire che abbia girato attorno alla questione. Banalmente, Perino è uno dei principali leader del movimento. Ecco, appunto, poi esistono i sindaci, i comuni. Montana e la maggioranza di sindaci dei comuni esprime una giunta della comunità montana che è contraria alla TAV. Comunque, guardi, anche se la popolazione locale è contraria, sono estremisti particolari, credo che fosse un ex democristiano, diciamo, in gioventù. Scusi un attimo, invece il sondaggio di Lia, dunque abbiamo detto, il giornale una schifezza, quel titolo là, e dunque Sallusti in questo caso è comportato come chi? Come un delinquente? Come uno che cerca di vendere delle copie, per l'appunto lisciando il pelo alle cose peggiori che ci sono in giro. Per dell'animo umano. Penso che appunto non c'è nemmeno la pietas che bisognerebbe mantenere in questi casi. È libero invece che ha fatto quel sondaggio, se l'è meritato o no? Lo salviamo oppure? No, le chiedo scusa, non ho visto il sondaggio di Libero, mi sono persa questa oggi. C'è un sondaggio di Libero di ieri in realtà, un sondaggio che era il signor Abbasi è caduto, dov'è? Secondo voi se l'è meritato? Più o meno sempre sulla stessa lunghezza d'onda, diciamo. Con culture di questo tipo nel secolo scorso si sono fatti abbastanza danni in questo. Cioè in che senso? Continente. Che cultura è, scusi? Siamo al fascismo, al nazismo? Beh certo, siamo certo in una cultura della convivenza civile, diciamo non siamo ai principi del liberalismo in cui non dissento con te ma mi batterò fino alla morte perché tu possa esprimere le tue idee. Siamo alla macelleria, diciamo. Poi hanno anche preso di mira Libero, i manifestanti dopo, una parte del corteo a Milano a un certo punto si è diretta verso Libero, hanno tirato dei pezzi. Dopo una cosa di questo tipo, diciamo, quello si sarebbe arrabbiato. Quindi lei capisce quelli che ha dato l'assalto a Libero? No, io dico semplicemente che evidentemente chi fa dei sondaggi di questo tipo lo fa consapevolmente per provocare. Io poi penso che non bisogna, diciamo così, scendere su queste provocazioni, perché si fa solo il gioco di Libero o di Sallusti nell'altro caso. Perché tutto cosa serve a deviare dal problema semplicissimo che è perché sprecare 17 miliardi? Sì, quello è stato già discusso. Dannosa, è stato già discusso. Da 20 anni è stato discusso. No, le ripeto, in giro per l'Italia la gente questo non lo sa, oramai sente solo parlare di anarco-insurrezionalisti avanti, invece il problema vero è l'altro, il problema vero è il contenuto della questione. Ma questo qua è giusto. Sento una cosa, ma ho letto anche delle ironie da parte di siti satirici su questo, per esempio questa non è male, devo dire, nonostante il dramma di Luca Abba, come si chiama, però è carina, secondo lei, volevo sapere da lei se è giustificato o no. Io le proporrei una cosa, non me la legga, perché non vorrei... Vorrei fare commenti simili a quelli di Perino, nel senso che c'è una persona. Però che mi scusi, in coma, no, però la satira è la satira, e questo qua è un sito di satira, che tra l'altro è abbastanza benissimo, di sinistra. Se permette, eviterei. C'è una persona in coma. Non si può fare satira su questo. In coma farmacologica, io penso che c'è un limite all'ironia che si ferma prima della questione della vita e della morte delle persone. Perché secondo me si può fare satira anche sulla vita e sulla morte, e la si fa continuamente. Diciamo così, secondo me, se uno se la fa su se stessi la può fare su qualsiasi cosa, se la fa sugli altri, secondo me, specie se lo fa in pubblico e non una cena tra amici ma alla radio, secondo me c'è un limite che è fissato dal fatto dell'umanità che dovrebbe caratterizzare tutti e che non è possibile, come dire, violentare in questo dunque momento. La leggo o non la leggo secondo me? Io le chiederei di non leggerla. Dipende, se reputi che sia di cattivo gusto non leggerla, ma insomma, a questo punto che fai? Famo il sondaggio, la leggiamo o non la leggiamo, chiami Mannheimer e leggila. No, ma è su tutti i siti, cioè è una roba di Spinoza, è una roba di Spinoza, la drammatica Spinoza, citato spesso dal Fatto, che ha sulla TAV una posizione abbastanza chiara, non mi pare una cosa tremenda. Comunque la drammatica protesta di Luca Bà conferma che i manifestanti no TAV non sono isolati, punto. Io tra l'altro ci ho messo anche un paio di minuti per capirla alla fine. Va bene. No, non sono, infatti è difficile da capire. Non ho mica capito. Va bene, no, adesso basta, l'ho pronunciato. Ah! L'ho detto. Veramente mi sembra che siamo fuori dall'ordinario, diciamo. Senta, ma adesso io mi chiedo se un familiare di Abba sta ascoltando questa trasmissione, che cosa può pensare? No, ma io no, di ma una trasmissione radio. Perino è stato gentile. No, no, però scusi, Ferrero. Allora se la prenda con Spinoza, scusi. Spinoza è dappertutto, su tutti i siti, che differenza c'è? No, la radio è un altro mezzo. Questo è il contesto. No. Semplicemente penso che c'è una modalità in cui ci si ferma un attimo. Ma infatti prima. Io le volevo chiedere se la satira, secondo lei, su questo è giustificata. Lasci perdere il fatto che la comunichi. Io penso di no. Volevo dire. Le ripeto, io posso fare satira su di me e sui miei guai fisici, medici. Ma la si fa anche sui morti in Afghanistan, Io penso che non si può fare. Io penso che non si può fare. Perché penso che c'è un limite entro cui bisogna fermare. Anch'io la pensavo come lei prima. Adesso però penso c'è una piccola obiezione. Qual è l'obiezione? In genere, quando ci fu l'intifada Israele, anche sui kamikaze si è ironizzato moltissimo. Sì, ma infatti non credo che lei non sia scandalizzato, lei, Ferrero, quando si fanno le vignette sui kamikaze. Questa è una battuta di Spinoza che, per carità, io non è che sto dicendo ridendo, sto dicendo che anche la satira è andata su questa cosa. Chi è che è caduto? Siamo in piedi. È Parenzo che... Che, come è caduto solito, Parenzo. No, è caduta la linea, purtroppo. Non è che lo stavano inseguendo. No, Marchionne ha tolto l'unità dalla Magneti Marelli, è vero o non è vero? Ha tolto? Dalle bacheche del sindacali, non so dove, della Magneti Marelli, ha fatto togliere l'unità. Sì, sì. Ma mi risulta. Sì, sì. Mi risulta, mi sembra in linea con la sua idea di società in cui lui fa il padrone e i lavoratori devono poter leggere solo quello che piace a lui, diciamo. È una bella idea di società, somiglia al Medioevo o ad alcune dittature. Dirigenti della Magneti Marelli. Se in azienda si può leggere solo cosa decide il padrone, lei la metta come vuole, diciamo. Certo, non no, è ma anch'io, guardi, su questo, devo dire che se è vero, io sto riprendendo per esempio una cosa di un paio di giorni fa di Dario Di Vico: i dirigenti della Magneti Marelli, sbullonando la bacheca dell'unità, ci hanno tolto almeno 50 anni di modernità. Complimenti. Dunque, anche Dario Di Vico, che certamente non è uno vicino alla posizione di Ferrero, dice che i dirigenti della Magneti Marelli hanno sbagliato. Adesso Marchionne, non so se approvi questa cosa, spero di no. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani, che vengono lontane le zanzare. È laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Ceausescu, ciao Ioescu, dove vai? Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm di Rin Tin Tin. E che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde! Se è meritata è un'altra cosa, io non dico se è meritata, premesso che io gli auguro tutto il bene. Però voglio dire, lo sa chiunque che se ti arrampichi su un traliccio ad alta tensione finisci male. Ecco, a me stupisce che lui non lo sapesse, una persona adulta. Tutti sanno che se vai su un traliccio ti fulmini, cioè francamente è stupefacente questo fare. E dunque se l'è cercata la tesi di Castelli ieri sera qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Volevo sapere da Paolo Ferreri, in collegamento con noi, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, se pensa che la polizia che si trova in quelle zone a chi può essere paragonata? Delle forze di occupazione? Ripeto, io non parlo della polizia nel senso di polizia, quella è gente che fa il suo lavoro, che viene mandata lì a fare un lavoro, e ripeto, io non ho mai considerato, diciamo così, il conflitto guardie e ladri come la mia idea di società. Io penso che i miei avversari sono le banche, i grandi che spostano miliardi e poi usano come pedine. Il concreto modo in cui lo Stato italiano, non le forze che sono lì, che sono comandate, qui lo Stato italiano si relaziona con la Val di Susa, non è quella di uno Stato con una parte della sua popolazione, è con una forza, come una forza di occupazione che ha occupato militarmente un terreno e continua a muoversi in questo modo. Dunque la polizia è una sorta di forza di occupazione di quelle zone? E concretamente lì peraltro guardi la forza di occupazione, però le forze di occupazione erano i nazisti, le forze di occupazione ci sono addirittura i mezzi anfibi che arrivano da, chi dall'Afghanistan, chi da altre parti, perché i mezzi utilizzati sono gli stessi che si usano in guerra. E beh, qual è il problema? È un bel disastro. Ma qual è il problema? Scusi, ma io penso che uno Stato democratico si pone un problema, anche se pensa di aver ragione. Ma lo Stato democratico c'è l'esercito, gente, non è che l'unico modo in ma hanno già discusso, sono 20 anni che si discute, ma sulla... non sono forze di occupazione, scusate, sono forze di liberazione, perché stanno liberando, bravo, questo non è male. Stanno liberando dei territori in uno Stato democratico. Ci sono espropri ogni giorno nei comuni italiani, ce ne sono pochissimi, e in questo caso non è nemmeno stato notificato l'esproprio ai singoli proprietari, ma è stata fatta una procedura d'urgenza, te credo, sono farlocchi i proprietari, con cui prima si è occupato il terreno e dopo arriveranno, ma sono farlocchi i proprietari, Ferrero, lo fanno farlocchi. Ma sono io farlocchi, sono stato gasato abbondantemente mentre stavo in un posto concesso dalla comunità montana e senza che nessuno mi abbia gasato. Che vuol dire gasato? Che diciamo che mi sono respirato metri cubi di gas lacrimogeni, vabbè, ma gas lacrimogeni, diciamo. E che devono fare? Che le devo dire? Semplicemente le segnalo che anche le modalità con cui diciamo ci si relaziona a un territorio sono queste, e io penso che uno Stato democratico, anche quando pensa di aver ragione, lei ha conosce il dovere lezione... di comportarsi in modo diverso rispetto a una popolazione. Lei ha mai sentito parlare, lo conosce sicuro, il signor Luttwak. Signor Luttwak una volta diede una definizione per me veramente straordinaria, no? Quando gli dicevano, ma scusi, ma chi sono secondo lei i kamikaze, no? Che poi vengono, come dire, trovati chirurgicamente dall'esercito israeliano e uccisi. Lei trova giusta questa pratica di uccidere i terroristi? E lui dice, ci sono gente che fanno mestiere pericoloso. Se uno fa mafioso, gli sparano, lo Stato spara mafioso. Se uno fa kamikaze, se lo trovo sparo kamikaze. Cioè, se uno fa un mestiere pericoloso, cioè comincia a occupare i cantieri, ingaggia una battaglia con le pietre contro la polizia di uno Stato democratico, mette in conto che purtroppo qualche incidente ci può essere, perché non è che non c'è una reazione. Io penso che nessuno di quelli che sono lì in Val di Susa ha la mentalità del kamikaze né del guerrigliero, semplicemente vorrebbe ma non sto dicendo la popolazione locale, ma non è vero, ma voi continuate a fare una differenza che poi non si vede nella concreta realtà. C'è una dinamica in cui c'è una popolazione che pone un tema, e io penso che uno Stato democratico debba discutere esattamente come in Italia, faccio un esempio solo, si è discusso e si è arrivati al fatto che ci fossero regioni a statuto speciale, perché ad esempio quelle popolazioni di confine si è riconosciuto che, pur stando dentro i confini italiani, lo Stato aveva il dovere di discutere. Comunque, ora, se una valle sono 15 discusso. Anni che si oppone a un'opera, non vuole dire che c'è qualcuno che da fuori li ha abitati, vuol dire che c'è un problema vero. Io credo che va discusso, si è già banalmente discusso. Ma guardi, glielo dice uno che vive nella vallata a fianco, perché io sono della valle di fianco. In una vallata, una volta che ci passa un'autostrada, una linea ferroviaria a doppio binario, due statali e tre elettrodotti, ma che cosa ci deve far passare? Vuol dire che è diventato un tubo quella valle, e lì ci abita un mucchio di gente, non sono vallate disabitate, e quella gente lì ha diritto a viverci, non è che deve per forza emigrare perché altrimenti fa vivere suo figlio in un cantiere. Ma stiamo scherzando. Va bene, Ferrero, la ringrazio, la saluto. Grazie Ferrero. Buona serata. Mi stia bene, e comunque un po' di informazioni sul vero punto della TAV, e dite alla gente che gli fanno pagare i ticket sulle medicine, che non si fa il riassetto idrogeologico del territorio, ma i soldi per bucare la montagna in Piemonte. Vabbè, ci sono, ma questo è un tema, un altro tema questo qua. Non è questo il tema, che le risorse ho capito, sono scarse, lei dice bene. Che sono truppe di occupazione e che quella polizia ha causato l'incidente del signor Abba, mentre non è così, è evidente che se l'è procurato da solo, no? Perché è una mossa assurda quella di salire sopra quel traliccio ad alta tensione, abbia il coraggio di dirlo. Io penso che il signor Abba ha fatto una cosa rischiosa, rischiosissima. Ha fatto una cosa da sconsiderato, perché voleva fregare la polizia, e dunque ha fatto una cosa da pazzo sconsiderato. Su, diciamo la verità. In quel contesto è sbagliato che un poliziotto lo insegua su per il traliccio, ma non lo deve fare in nessun modo. In ogni caso così alla fine è stato interpretato, se no quello non continuava a stare. Cioè, non ho capito, quindi quel poliziotto dovevano mettere la rete, secondo Ferrero dovevano mettere una rete sotto, ma rendi conto no. Se uno sale sul Colosseo, ma non è la stessa cosa, su. Non è che si fa, si mette una rete e si. Ma non è il Colosseo, ma non è una situazione, ma non siamo al circo. Ma non è un circo. Non è uno da uccidere, non è un nemico, è un cittadino. Scusi Ferrero, ma non siamo al circo Orfei, che ci. Scusi Ferrero, fermi un attimo. Fermi un attimo, non ci siamo, non siamo al circo Orfei. Parenzo, taci un secondo perché sennò si sovrappongono le voci. Non è il circo Orfei, sai quando si fanno i giochi, ecco, arriva uno che si butta sotto e sotto, e non è il circo Orfei. C'è una situazione in cui uno non è che può mettere, prevediamo di portare le reti sotto i materassi per far cadere, perché questo può accadere, quello è salito, certo. Ha preso la scossa e è caduto, punto. È colpa sua, è colpa sua, punto. C'è un gesto estremo, e questo lo pensare, c'è un gesto estremo. Io penso che in rispetto dell'umanità. Ma che devono fare i poliziotti là? Che devono fare? Fermarsi e trattare con quella persona, perché penso che la sua vita valga di più del fatto di far partire le ruspe mezz'ora prima o mezz'ora dopo. Ma cosa c'entrano in questo caso le ruspe? Siamo in un paese in cui si discute che il feto ha vita propria, e c'è chi dice non bisogna fare l'aborto in nome di questo, e non si rispetta la vita delle persone in carne. Scusi un attimo, per concludere, chi è che non ha rispettato la vita in carne e ossa di questo personaggio? Cioè, il poliziotto va incriminato, secondo lei, quello che lo inseguiva? No, perché non penso che ci sia nessun dolo, penso che c'è un'azione fatta male lì. Ho capito, ma qualcuno si continua ad andare avanti a fare cose fatte male. Ho capito, ma qualcuno dovrebbe denunciare la polizia per questa cosa? Bisogna denunciare la polizia per il modo in cui si è comportata con questo Luca Bà, come si chiama? Ogni volta me lo deciderà Luca Bà. No, ma è legittimo che qualcuno se la prenda. Una discussione sui comportamenti concreti in un'azione cosiddetta di ordine pubblico, e penso che quel comportamento sia sbagliato. Tanto voi date sempre la colpa alla polizia. Delle persone, ma sta prima del resto. Tanto voi date sempre la colpa alla polizia. Innanzitutto, lo dice lei, non è vero. Il suo amico Di Pietro, per modo di dire politico, dal punto di vista politico, dice rinunciare alla TAV sarebbe un grande errore. Vedetevela voi adesso, perché. Di Pietro, infatti, abbiamo sempre litigato anche quando eravamo al governo assieme. Abbiamo sempre litigato su questo. Si può avere idee assolutamente diverse. No, per carità, assolutamente. Grazie, a presto. A presto. Stefano, provincia di Chieti, buonasera. Buonasera. Vada. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Sì, no, non lo voglio sentire queste cose, dica. Vabbè, faccio. Poi volevo fare un appello alla Sala Tommasi. Che appello deve fare la signora Tommasi? Di non fermarsi, di continuare a fare questa performance, che noi ne siamo contentissimi. Vabbè, lei perché guarda su internet da sporcaccione le foto, le foto, e lei che si toglie, si alza la gonna, è per questo. Certo, perché non c'è altro motivo per cui sta là a guardare e sentire. Continui così, dice lei. Stefano, grazie. Cristian da Perugia. Cristian Perugia, un'ora fa. Buonasera, Cristian. Mi scusi, Cristian, siamo messi così. No, non ce l'ho così. Vada. Volevo chiedere una cosa veloce a Parenzo. Perché non ha fatto partire l'ambulanza prima con la Tommasi, ora con Ferrero? Perché partire l'ambulanza quando mi pare. Perfetto. Sì, ma non vige la democrazia. Lei deve capire una cosa: in questo contesto la democrazia non esiste. Non esiste la democrazia, esiste la dittatura del conduttore che decide tutto. Una domanda veloce al sapientino Parenzo. Senti, Giovanotto. Il sindaco di Milano, Pisapia. Sì. Deve mettere, non so in quale mansione, quell'essere spregevole che è stato fotografato con una pistola in mano. A ricoprire un ruolo pubblico, insomma, andrà a fare qualcosa a livello pubblico. Lo sa Parenzo che quando si fanno i concorsi pubblici una delle richieste principali è l'essere esente da condanne penali? Si vede che aveva i titoli per farlo. Denunci tutto alla procura se lei pensa che non sia così. Sveglia. I titoli aveva Parenzo. Cristian, però lei è con l'auricolare, prenda il telefono, altrimenti non la sentiamo, scusi. Tolto l'auricolare perché faccio l'autista. No, ma lei ha ragione, perché è stato un'ora al telefono, caro autista da Perugia. Però adesso riprenda il telefono un attimo, perché altrimenti la sentiamo con la voce che va e viene. Pronto? Sì, la sento. Allora, Cristian, dunque, conclusione qual è? Conclusione che penso di non essere a conoscenza di cose errate. Lui faceva riferimento al fatto che lo Stato ha vinto perché è stato possibile questo. No, lo Stato ha perso e io ho perso come lavoratore. Va bene. Come tutti gli altri che aspirano a un posto del genere o a lavorare. Ho capito, Christian, la ringrazio. Abbiamo la borsa 800 24 00 24. Poi torniamo per l'ultima mezz'ora della Zanzara. Ancora grandi, grandissime novità e ospiti. Bene, 800 24 00 24, la Zanzara torna in onda. Alessandro da Milano, poi Umberto da Napoli, Roberto provincia di Torino, Andrea provincia di Asti, da Livorno un altro ascoltatore. Intanto Alessandro. Alessandro Milano, buonasera. No, Alessandro, buonasera. Non so come, noi non chiediamo il cognome, ce ne freghiamo. Buonasera. Ascoltando la telefonata di Sara Tommasi mi è venuto in mente un'ennesima conferma di quanto geniali sia Scilipoti. Lei dice, me, lei dice. Beh, sì, è un genio, un genio del male. Se gli piace così. No, non mi piace. C'è uno che si inventa l'esperta di finanze. Esattamente. E penso che una persona trova il modo, tira fuori dal cilindro la signora Sara Tommasi, però mi sembra che, come dire, che sia un po' in ombra Scilipoti in questa vicenda della Tommasi. Esattamente. Ma è un po' in ombra, ma Scilipoti è un personaggio secondo me che a questo punto può vivere solamente di queste cose qua, perché non penso che, non mi vengono in mente altri suoi meriti, no? Per cui mi è venuto in mente un po', ho fatto così, forse sbagliando, io sono del 75, ho un ricordo un po' vago di quegli anni, però ricordo quando per esempio Cicciolina si era inventata il suo partito, o meglio, quando Cicciolina era entrata in Parlamento, no? Questo partito dell'amore, quello che era, lei sicuramente si ricorderà meglio di me. E per cui è un po' la storia che si ripete, no? In alcuni momenti storici ci sono questi lampi di genialità totalmente degradante da un certo punto di vista, perché vederle in Parlamento queste persone, io penso che Sara Tommasi punti a quello, dal mio punto di vista. Bah, non mi sembra, adesso per carità, no, non stiamo parlando di statisti, come è evidente, no, no. Però, certo, mi sembra che poi tra l'altro le due persone siano molto diverse, non so perché, riconosco in Cicciolina, non so, una capacità di, non lo so, anche una capacità di, aveva una capacità di penetrazione nella come dire, dell'opinione. Adesso, pubblica, anche qui la parola mi sembra inopportuna. Oh mamma, vorrei tutti double meaning, aveva una capacità di penetrazione politica. Yeah, parla in italiano però, no? double meaning. Mi dicono che tra i titoli del TG3 questa sera ci sia il seguente titolo: alta tensione in Val di Susa. Questo è il titolo. Fate voi. Può sembrare una freddura di. No, ma è così. Andiamo a ripescare. Magari è così. Vediamo un po'. Cioè, abbiamo il titolo del TG3. Sentiamo l'inizio. Ancora alta tensione in Val di Susa, proteste, proprio così, stradali, alta tensione in Val di Susa, amico mio, alta tensione in Val di Susa, ma come è venuto in mente ai carissimi amici redattori, titolisti del TG3, alta, voi, facciamolo risentire, vi prego, alta tensione in Val di Susa, Ancora alta tensione in Val di Susa, proteste. Ma quale alta tensione? E come avete titolato tutti i direttori? No, ma ho capito, però adesso per carità, io me ne frego, posso fare ironia su tutto, ma fare un titolo alta tensione in Val di Susa dopo quello che è successo. Semplicemente tensione in Val di Susa. Ma nemmeno quello, cioè non lo so, ma ci sono altri termini, adesso trovate assedio in Val di Susa. Ma no, ma sì, ma qualsiasi cosa, ma continua ci sarà una parola che può sostituire tensione, no? Cercate sul vocabolario, sul dizionario, tensione, sinonimi e contrari, sinonimi di tensione, quali possono essere? Facciamo un esercizio per le persone che ci ascoltano da casa. Disordini in Val di Susa, che ne so, mille cose. Alta tensione, è evidente, invece c'è un clima. Dai, su, ma non è una cosa normale, abbi pazienza. Ma come non è normale? Ma cosa intanto dici? Sul web, negli Stati Uniti, spopola il bacio gay del Marine che torna a casa, eh? Più del nostro? Lo sapevi? No, il nostro è quello con Scilipoti, è il nostro, cioè, nella giornata, il nostro bacio in bocca come spot per TG.com 24. In bocca, che schifo, adesso non mi ricordo. No, la gente deve sapere che c'è stato questo nostro promo. Umberto da Napoli intanto. Umberto Galimberti. Cruciani e Parenzo. Vada. Un abbraccio forte. Allora, riguardo alla trasmissione di ieri, c'era un leghista. L'altro ieri c'era un altro leghista. C'è sempre un leghista. Se a noi ci piace così, adesso arriva pure un altro tra poco, tra l'altro. Sì, ma perché non facciamo arrivare, cioè, per parità di cosa, anche qualche napoletano? Ma guardi, che napoletani ce ne sono stati un sacco e continuano ad esserci un sacco, Cioè, non si preoccupi, non è un problema. No, ma non che c'entra Marra. Marra è un avvocato, mica fa il politico. Comunque. Sì, insomma. Vabbè, però comunque più napoletani e meno leghisti. Un attimo solo, un attimo. Chi stiamo chiamando? Rositani. Sì. Sì, dottor Rositani? Sì. Buonasera, Radio 24, la disturbo? Mica. No, le volevo fare qualche domanda, mi scusi se no. No, io niente, mi lasci. No, giornalisti, no. Ma come con giornalisti? Vabbè, ma qualche giornalista ha risposto, Libero a un sacco di giornalisti. Ma due domande. Basta, io la ringrazio molto. Io molto la vostra radio. Sì. So chi rappresentate, mi sono amico, ma per cortesia basta così. No, ma due domandine basta, dottor Rositani. Fare la parte del marito. No, io non voglio fare la parte del, ma la cosa di sua moglie, questo volevo chiarire. E niente, vabbè, non riusciamo a tenere. La parola moglie è Non vuole fare la parte del maleducato, ho capito, però non è che uno fa il consiglio all'amministrazione della RAI, cioè non è che non può rispondere alle domande su come utilizza i soldi, per carità, poi uno può scegliere farlo a quello, fare l'intervista, farlo a quell'altro. Forse varrebbe la pena richiamarlo un attimo. No, non lo richiamiamo, lasciamo macerare bene le cose. Roberto, provincia di Torino. Oh, buonasera. Senta, vada. Ma sai che io sono residente, nato e cresciuto in Valsusa? Sì. Lo sai che io, per esempio, io come la maggior parte dei valsusini siamo favorevoli alla TAV? Lo so, ma io lo so, ma glielo dica lei. Lo dica lei a Ferrero. Lei dica, lo dica lei a Ferrero. Lo dica lei a Ferrero. Ecco, ma io di giorno. Io ho sempre detto che sono minoranze quelle che si oppongono. Allora, le voglio dire una anche cosa. Sul territorio. 750.000 persone della Valle di Susa. Poi che cosa è successo? Hanno chiamato in Valsusa i No Ponte, No Dal Molino. I ribelli di tutta Italia, diciamo la verità. Esatto. Allora, la Valsusa è diventata una palestra per di guerriglia. Forse se volevate un sinonimo di tensione potevate dire che ci sono stati degli scontri oggi. Comunque, io rivendico una cosa come cittadino. Io pago le tasse alla fonte e sono incensurato. La sera, quando torno a casa, siccome sono un pendolare, voglio avere il diritto di arrivare a casa senza trovarmi la strada occupata improvvisamente. A me lo dice. Se abitassi avrei preso il bazooka già. Lo sa perché? Ma lo così, perché metaforicamente, qui, naturalmente. Qui in Valsusa le cose sono degenerate. Perché questi qui, che ripeto sono una minoranza, hanno introiettato l'idea dell'impunità. Cioè le istituzioni non sono intervenute mai. La solidarietà va unicamente espressa a favore dei carabinieri, dei poliziotti che stanno lì a prendersi sassate dalla mattina alla sera. Questo è il discorso. Io sono residente qui e chiunque abbia il coraggio di parlare e non tema di essere minacciato, riconosciuto, eccetera, eccetera, può dire le stesse cose che le sto dicendo io. Comunque, a me pare ridicolo che Ferrero, lo dico con tutto rispetto, glielo ho detto anche in faccia, paragoni il tizio che era là sopra un aspirante suicida. No, Abba lo sa cos'è. Abba un aspirante suicida. Ma di che parliamo? È come un aspirante suicida. È il prototipo del NIMBY. Never in my backyard. Ma io non lo so, è il prototipo di che cosa. No, ma non lo so di che cosa. I terreni, perché vogliono che questi terreni diventino edificabili. Questo è il discorso. C'è anche una liceità in questo, eh. Sì, ma ho capito, ma come si fa? Come si fa a paragonare? Adesso lo voglio scrivere su Twitter in diretta. Come si fa a paragonare? Scrivo così. Aiutami, Parenzo, a paragonare. Devi fare hashtag la giornata. No, aspetta, me ne frego di queste cose qua, non c'ho tempo. Come si fa a paragonare? Abba. Qui ci metto una bella cosa, Abba, io ogni tanto ancora non sono, Abba ha un aspirante, giusto? Aspirante suicida, giusto? Poi sì, mettiamo una cosa, la zanzara, sì lo so che è senza l'apostrofo. No, vabbè, te la dico. Perché l'apostrofo va solo sul femminile. No, ma lo so che è senza apostrofo, non c'è no, bisogno. No, tu lo sai, ma molte di quelle persone che telefonano non lo sanno. E ma cosa c'entra? Non è vero, magari sono molto più acculturati di noi. Ma quei mesi così. Vabbè, Roberto, la ringrazio molto di questa testimonianza da Val di Susa. Comunque varrebbe la pena forse fare un approfondimento con dei professori. Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Ma quale approfondimento? Intanto sai chi è con noi, chi ci ha raggiunto alle 20:41? Non potendo avere oggi, naturalmente, l'originale, noi ci siamo affidati a una costola. Io lo faccio per te. caro Parenzo, lo faccio per te. So che sei molto giù in questo periodo, in questi giorni sei molto giù, sei affranto per motivi personali che non, di cui non vogliamo parlare naturalmente. Motivi personali, sei molto stanco. Di chi è, come dire, cosa senti tu, cosa ascolti, cosa vedi quando sei depresso? Quando sono depresso ascolto i comizi di Borghezio. Benissimo, sentiamo un pezzo di questo comizio, poi ti presento una persona che è molto vicina a Borghezio perché ti voglio risollevare la serata. Molto bene. Borghezio? Borghezio. Arrivederci, Roma Lampona, la Lega non perdona. E questo non era un comizio, ma era un saluto normale di Borghezio. Anche moderato. Poi c'è anche un'altra frase mitica di Borghezio. L'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è sempre lui. Abbiamo qualcos'altro? Come no? Dovremmo avere un sacco di robe, ma non ce l'abbiamo. È con noi Max Bastoni, mitico. Buonasera. Oh. Buonasera a voi. Buonasera. Come andiamo? Ai mitici siete voi. Grande. Il nome Bastoni, un nome d'arte, diciamo. Lega Nord, aspetta, fammelo presentare meglio. Sì. Lega Nord, consigliere comunale a Milano, soprattutto braccio destro di Mario Borghezio. Questa è la realtà dei fatti. Braccio destro. Senta, scusi Bastone, come si fa a essere collaboratore di Borghezio? Cioè, come si fa a seguire Borghezio? In realtà il suo ruolo qual è? Mi dica la verità. Ma innanzitutto io sono un grande fan di Borghezio ancora prima di conoscerlo. Poi quando... Come prima di conoscerlo, scusi? Ah, cioè prima di conoscerlo personalmente, prima di avere un rapporto diciamo proprio professionale anche. Io diciamo che ero... I primi passi da leghista, uno dei miei idoli era Borghezio. Cioè, poi lei... quando mi diede l'incarico di, insieme a lui, coordinare i Volontari Verdi, per me è stato un grande onore e quindi da qui è nata una grande collaborazione che va avanti da quasi 20 anni. Da quasi 20 anni? Con uno dei miti della Lega Nord. Capito? Capito, Parenzo? Io da quasi 20 anni sto al fianco di Borghezio. Max Bastoni, un grande. No, ma non si chiama. Il vero nome è come Walter Chiari, cioè non è. No, c'è uno pseudonimo Bastoni. No. Purtroppo, per fortuna, è una delle cose che ho ereditato da mio padre. Il nome è Bastoni. Bastoni. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori della Zanzara che il signor Max Bastoni, anni fa, ma è il primo incarico che ha, diciamo, al Comune di Milano. Cioè, la prima volta che diventa consigliere comunale, o no? A Milano ci sono anche le zone, sono stato per diversi anni consigliere di zona, però il consiglio comunale è la prima legislatura. Quando è che ci furono i cartelli Bastoni agli immigrati? Com'era il cartello esatto? Alla scorsa campagna elettorale, Bastoni contro l'immigrazione. Bastoni contro l'immigrazione? diciamo che, come dire, no? Ogni riferimento è puramente... Voluto. Era il punto basilare del mio programma per Milano. Cioè era Bastoni contro gli immigrati. Io diciamo che, come Borghezio insegna, tra i punti fondamentali della nostra battaglia politica c'è diciamo una lotta all'immigrazione clandestina. Ma anche usare i bastoni, no? No, io mi chiamo Bastoni. Sì, lo so, ma lei gioca, gioca molto su questo. Ma se mi fossi chiamato Cruciani avrei fatto i manifesti con scritto Cruciani contro l'immigrazione. Purtroppo mi chiamo Ma non suonava allo stesso modo. Dunque lei ci gioca molto su questa cosa, no? Ci ha giocato molto, diciamo la verità. Ci ha giocato molto su questo slogan a Bastoni contro gli immigrati. E l'altra volta è andata male, questa volta è andata meglio. Va bene, allora abbiamo il traffico, torniamo subito insieme agli ascoltatori. C'è anche con noi Max Bastoni, da 20 anni al fianco di Borghezio. Ma lei, c'è una cosa in cui ha sbagliato Borghezio? No, ogni tanto gli dice a Mario, fa una cazzata, adesso lo dico io in romano naturalmente, lei glielo dice in dialetto nordico, non so in quale dialetto, nessun dialetto. Lombardo, lui è piemontese, appunto. Quindi abbiamo due lingue diverse, però gli dico che ogni tanto è un po' troppo moderato, dovrebbe avere più coraggio. Come moderato? Ogni tanto si modera, cerca anche lui, così cerca un attimino di moderare il tiro, invece io sono più... Radicale. Più radicale. A volte la gente vuole sentirsi dire cose che non tutti dicono, perché così il politicamente corretto lo impedisce, ma che in realtà è nel pensiero di tutti. Capito, Parenzo? È moderato Borghezio secondo Bastoni? Ma quei moderati, quello lì ci vuole, quel comizio lì per far capire. Com'è che diceva? Moderati un cazzo! Sono moderati un cazzo! Sono la Lega! Traffico. chiaro che qualunque padano a sentire la notizia che le Olimpiadi non si faranno a Roma gode come un riccio. Te l'ho messo apposta questo, Parenzo, eh? Siamo di nuovo in diretta su TGCom 24 per l'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24. Beh, voglio fare ascoltare agli ascoltatori di Radio 24, ai telespettatori di TGCom 24, la perla stasera tra i titoli del TG3 dell'ottima Bianca Berlinguer, perché il primo titolo mi ha colpito profondamente, me l'ha segnalato un ascoltatore, io ero sopra il pensiero magari, però il primo titolo è, insomma, amici miei, correggetelo, intervenite, cari titolisti del TG3, come si fa? Sentite. Ancora alta tensione in Val di Susa, proteste, blocchi stradali. Ma come ancora alta tensione? Ancora alta tensione in Val di Susa. Trova un sinonimo allora, tu. Trova, scusa, un sinonimo, ma trovatelo voi, mica devo essere io a fare i titoli del TG3, non sarei nemmeno, beh, capace. Si usa molto la parola alta tensione. Scusi, per dire dall'alto del suo moderatismo, signor Max Bastoni, Lega Nord, collaboratore da vent'anni. Da vent'anni, braccio destro con orgoglio, credo, no? Di Mario Borghezio. Certamente. Non si può che essere orgogliosi di essere al fianco di un uomo come Borghezza. Non c'è dubbio. Certo, non c'è dubbio. Allora, vorrei dire una cosa. Lei che cosa farebbe con i manifestanti della Val di Susa? Cioè, dovesse consigliare Borghezio, ministro dell'interno, no? Beh, immaginiamoci una cosa di questo tipo. Borghezio... ma loro sono d'accordo con le proteste della Val di Susa. No, non lo so. Sì, è vero. Direi con Borghezio, soprattutto con in ottava, un brutto ricordo. Sì. Fu aggredito da questi in treno, no? E uomini moderati che aggredirono circa 200-300 persone, adesso non so quante persone ci possono stare su un treno, quindi noi non abbiamo certo un buon ricordo di questo. Ecco, ma dovesse dare un consiglio, come intervenire lì? Fanno male perché si arrampicano sul traliccio, però diciamo, insomma, che qualche piccolo sorriso ci arriva. Però sa che noi siamo stati i primi veri in ottava, quando ancora non c'era tutta questa mobilitazione, cioè? Soprattutto da parte dei centri sociali, dell'estrema sinistra, e noi eravamo vicino a quelli che protestavano. Cioè, non mi dite che adesso voi leghisti siete contrari alla TAV? Sì, sì. No, noi siamo stati i primi. No, noi adesso, oggi, siete contrari alla TAV? Oggi non si capisce più niente, ogni tanto la... Dove è finita? Ma che ne so, boh, è caduta la linea. Gianluca da Livorno. Buonasera. Vada. Signor Cruciani, allora, noi siamo già sentiti in occasione del suo caro invito del signor Dell'Utri alla sua trasmissione che parlava del libro, vabbè. Sì. Ah, diario di Mussolini, certo. Sì, io sono quello che l'ascolta a causa del mio lato sadomasochistico, no? Sì, non ricordo, sa, un sacco di gente ci ascolta perché è sadomasochista. Sì, infatti, siamo un gruppo. Un gruppo di fan, i sadomasochisti della Zanzara. Odiamo. I sadomasochisti della Zanzara. Esatto. Odiamo Cruciani, ma l'ascoltiamo la sera. Bravo. Vabbè. Avanti così. È così. Niente, no, dicevo che lei mi sembra molto fazioso, cioè nel senso. Certo, che... fazioso delle mie idee, non c'è dubbio. Sì, certo, ma molto, molto esasperatamente fazioso. A me è piaciuto molto Ferrero, perché nonostante lei abbia cercato di trarlo nella rete, ma quale rete? Lei gli voleva fare la rete, l'ha evocata lui, caro Gianluca, no, perché dice che i poliziotti, il signor Ferrero ha detto che i poliziotti devono mettere una rete. Certo, ma Sirena, ma che stiamo al circo, ma di che parliamo? Siamo pazzi, qui si parla di una persona. Ma quale rete? Ma non è che stanno là, non è che se uno si arrampica su un traliccio che portano il materasso sotto, ma dai, su, ma di che parliamo? E se parla lei, allora la trasmissione la ho capito, lei, Gianluca, lei. Ma di che stiamo parlando? Ma secondo Ferrero bisognava portare la rete sotto i materassi per farlo, e magari pure il caffè, magari un caffè, ma che allora, ne so. Fa parlare o dice tutto lei? No, dica. Tu vuoi dire tutto lei? Dica tutto no, lei. No, ma dica, per carità. Allora, qui stiamo parlando di una persona che è in fin di vita all'ospedale. C'è una famiglia che soffrirà per questa persona. E allora? No? Vi siete permessi il lusso di parlare di battute riguardanti... Io ho evocato una... Cruciani, ho evocato... Cruciani, diciamo che Perina l'ha trattato con i guanti di velluto, perché io lo mandavo qualche altro punto. Ma lui può, sì. Perino può fare quello che vuole, so solo che ci ha fatto un gran regalo con quelle parole che ci ha detto. Ma lei non ha capito una cosa. Scusi un attimo Gianluca, adesso faccia parlare me. Allora, quella freddura che io ho evocato di Spinoza, sito ironico, satirico, che certamente non può essere accusato di essere di destra, guerrafondaio, eccetera, eccetera, era un modo per dire a Ferrero se era d'accordo, se si può fare ironia secondo lui anche su una cosa di questo tipo, punto e basta. Sì, poi diciamo che ce lo voleva tirare dentro, via. Ma che vuol dire? Ma quello è il mio ruolo. Sì, lo sa fare molto bene. Va bene, Gianluca, grazie. Nicola dalla provincia di Foggia, veloce, Nicola. Sì, lei è bravo a fare le trasmissioni, ma ogni tanto toppa, sa? E quando ha toppato? Per esempio, stasera ha toppato perché lei fa l'ironia su una persona che è in coma. Io non ho fatto ironia, io ho evocato una freddura di Spinoza, non dica stupidaggini. Ma qual è l'ironia? A parte che non mi vergognerei di fare ironia se fossi un disegnatore, se fossi uno che scrive su un sito satirico, non c'è problema, si può fare ironia su tutto. Alle spalle di quella persona c'è una famiglia. Guardi, hanno fatto ironia sui morti israeliani per i kamikaze palestinesi, nessuno si indigna, abbia pazienza. Quelli che hanno fatto questo. Ma no, ma i siti satirici fanno satira anche sui morti. Cioè, no, e per fortuna non è morto e non si fa neanche sui feriti e su quelli che sono in coma, lo sa? Vabbè, lei la pensa in un modo e la pensa in un altro, abbia pazienza. Nicola, scusi un attimo, Bastoni, perché avete fatto questo sito per segnalare le cose che fanno gli extracomunitari, gli immigrati? Perché volete che la gente segnali tutte le nefandezze degli extracomunitari? Perché? No, innanzitutto non l'abbiamo fatto. Noi come no? È stato fatto da un gruppo di. No, abbiamo, nel senso sembra che l'abbiamo fatto. No, l'ha annunciato Borghezio. Lei è la costola di Borghezio. Sì, beh, Borghezio l'ha segnalato in quanto sensibile a questo tipo di contenuti che vi è in questo sito, che non è solo quello della segnalazione. Delle, come dice lei, le malefatte dell'immigrazione, è un sito con sì, d'accordo, però l'intento qual è? L'intento è che la gente ci sarà una pagina dove ci sarà da parte di chi vuole segnalarlo episodi particolarmente gravi, soprattutto per chi è costretto a convivere con un certo tipo di immigrazione. Qualcuno parla di pagina, di però ci sarà anche una pagina, mi scusi Cruciani, ci sarà anche una pagina dove che noi abbiamo intitolato, o meglio, che hanno intitolato l'immigrazione che ci piace, e quindi verranno segnalati proprio quegi episodi. Non mi pare la pagina che verrà più citata. Allora, l'inviata di Santoro dice: perché non c'erano i materassi sotto il traliccio? Abbiamo visto tutto tranne ragazzi, ma di che stiamo parlando? I materassi sotto il traliccio, Parenzo, su, ma ci vuole anche la gente di Padova gli stava portando la corda per metterlo in sicurezza. La gente, il poliziotto. Il poliziotto che si stava arrampicando, gli stava porgendo una corda. Su, ma non si possono ribaltare le cose, non si possono. In sicurezza. Questa è la cronaca di quello che ha detto, la cronaca. Va bene, che c'è Borghezio, vogliamo più Bastoni? Sì, chiudiamo. Claudio, non c'è? Via. A Milano, ma io direi in tutta la Padania, ci vogliono i bastoni. Nel senso che ce ne voglierebbero uno ogni angolo di strada, come Max Bastoni. Da mettere dove l'immigrazione è sregolata, dove la criminalità ancora favorita. E con questo ho risollevato il morale di Parenzo per questa sera. Ci sentiamo domani anche con TGCom 24, naturalmente, 18:30. A plus. È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde! Cruciani è un paraculo. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.